Il nostro sogno è avere un condominio di oggettine. Parenzo è il primo ad avere questa ambizione. Lo sappiamo che è così. Noi che non siamo religiosi lo diciamo apertamente. Lui, essendo religioso, non lo dice, ma lo pensa come noi. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ascolto la zanzara, sono una persona peggiore. Ha ragione Parenzo, chi ascolta la zanzara è un miserabile. Salve, sono Matteo da Parma e attualmente sono a Tel Aviv. Vorrei chiedere l'indirizzo del signor Robert Annuna per conoscerlo personalmente. Lo ammiro. Sì, ma non avete capito che Annuna preferisce le donne, eh? Annuna preferisce interloquire e preferisce parlare con le femmine. Sì, sì, con le femmine, su questo non c'è dubbio. Anche tu lo puoi dire, anche tu sì, lo puoi sì, dire. Questo confermo, è corretto. Ragazzi, siamo qui in diretta anche oggi e domani, eh? Non molliamo di un millimetro. Perché dico non male, molliamo? Male. Ma perché vuoi sempre stare in vacanza? Tu spiegami perché? Sempre. Perché quando tutti i cristiani vorresti fanno fare il ponte, tu volevi fare il certo, ponte. Beh, chiaro. Ma perché volevi fare il ponte? Statale quali sono? Ma fare dove il ponte, dovevi fare lo stacanovista? Dove devi essere una stacanovista? Ma non me frega niente, qual è stacanovista? Ma stai scherzando? Ma perché, scusa, non ho capito. Ma perché devi spiegarmi tu? Devo passare tre ore con Franco da Mantova, Chicco da Bergamo, Cuculuda da Racalmuto. Ma prenditi due ore e mezza di relax assoluto. Dove? Qua, appunto, vado qua, in una spa. Rilassati. Vado in una qua. Spa. Ma io vado in una spa, ma se mi devo rilassare, non vado al telefono, non sto al telefono con Donato da Varese. Ma invece sì, rilassati anche cioè, qui. Io ho modi diversi di rilassarmi. Ma no, credo. Dai. Scusami, per carità, ma non dico di essere io quello giusto. C'è chi si rilassa ascoltando Donato da Varese e Mauro da Mantova e chi si rilassa in una spa. Fissato, non è che possiamo per forza fare un grande sondaggio al popolo della zanzara, se vuoi. Vi rilassate. Ma non è quello, qualora, dai, su. Qualora vi fosse offerta la possibilità di andare gratis a spese del sole 24 ore in una spa 5 stelle lux, ma cosa con 5 c'entra, massaggiatrici, dai, che vi fanno il total massage, oppure due ore e mezza con Donato da Varese, voi che cosa segnereste? Vediamo cosa rispondono. Per carità, se poi la maggioranza di chi telefona preferisce stare con Donato da Varese, io per carità, ma non è che dico nulla, io preferisco stare in una però, spa scusami, con 5 massaggiatrici, anche, poi fate voi ragazzi belli, fate bello, voi, fate voi. È anche bello. Mi scrive Mattia Corti peraltro. È anche bello, David, che mentre tutti delle altre radio, non tutti naturalmente, si sono presi il weekend lungo, appunto, questa appunto abitudine assurda, meraviglioso, del weekend appunto lungo, invece noi siamo qui sul pezzo, con voi, 800240024, con voi a parlare di quello che cazzo volete. Di terremoto. Peraltro, di quelli sesso, che chiameranno politica, saranno ancora tutto peggio del solito. Perché ma le che persone. Ne sai, ma non sì, è vero. Ti spiego perché. Perché le persone per bene sono in vacanza ma oppure no, a casa con la loro famiglia. Chiameranno solo non i soliti miserabili, i miserabili al cubo. Ma cioè perché quelli che in un giorno. Ma non di è così. Sì, dai. Perché una persona. No, allora, già una persona normale oggi è in vacanza. Ma e che quindi c'entra? Si fa uno sta suoi in macchina e chiama, in no? In più, nell'insieme no, di quelli che dai, chiamano, no, già quelli che chiamano sono dei miserabili. Ma anche quei miserabili sono in vacanza, quindi chiameranno i miserabili dei miserabili, cioè coloro i quali neanche in vacanza ma a casa, mica riescono in albergo a 5 fare a meno di chiamare, esatto, esattamente sì. Quindi chiameranno il sottoinsieme dei miserabili, pensa che roba sarà, ma cioè già sono miserabili quelli che chiamano, chiameranno i miserabili dei miserabili. Ma sei veramente di una snobberia. No, ma non sei, è un dato di una, fatto. Sei il tipico proprio esemplare della snobberia sinistroide borghese. Non c'è che non sopporta l'idea che qualcuno invece stia a casa perché non hai soldi per fare il weekend lungo. E no, che no, no, ma io è dico appassionato che sta... della zanzara e chiama no, per romperti coglione o per rompere i coglioni. Ma io non dico che io non dico persone che sono sei magari a... Ma no, io non dico persone che sono a Capri. Anche io mi riferisco a questi che mi riferisco. Ai miserabili che anche ma quelli perché? Sono a casa loro non... stanno a casa tranquilli cioè per una sera stanno a casa ma i miserabili dei miserabili cioè i cosiddetti nulla facenti quelli che non hanno famiglia che non allora, hanno niente una mia amica che fa l'avvocato una mia amica sì. un avvocato stimato a Roma sì. molto cioè di uno studio pazzesco eccetera importante con affari internazionali eccetera eccetera vabbè, mi scrive io sto lavorando oggi vabbè, ascolto la zanzara allora, in sottofondo lavora, aspetta lavora e non ascoltare perché se io fossi un tuo cliente sarei terrorizzato dal fatto che se devi fare una comparsa davanti alla corte di Cassazione perché? Con un orecchio ascolti Donato da Varese e con l'altra scrivi il ricorso in Cassazione. Non verrei mai da te. Fai bene non a vero. Non dire chi è perché ma io non no, ci andrei certo. mai. Ma no, fai benissimo. Ma figurati, è un avvocato bravissimo. Cioè, stai scherzando. Che ascolta la zanzara mentre deve fare il ricorso in Cassazione. Ma lascia ma perdere. Ma che stiamo scherzando? Allora, manda a fare in culo Parenzo. Io sto lavorando, non sono certo una miserabile. No, per carità, certo. L'amico Diego Volpe Pasini mi scrive subito ecco. Posso hai rompere il cazzo? Beh no, qui però no. Aspetta qui fino all'avvocato ti seguivo. Qui stai facendo l'esempio sbagliato. No, perché? Che la parolina. Il combinato disposto di Diego con la Volpe Pasini. Questo nell'insieme mi fa dire che chiameranno i miserabili dei miserabili. Ma no, ma perché? Persone che appunto non che hanno fatto? Da vabbè, Diego Volpe Pasini ha avuto dei problemi con l'ex moglie dal punto di vista giudiziario. No, quello ha fatto, almeno appunto, ma che cosa ha fatto? Quella consigliere di Berlusconi fatto. Per un periodo però, amico di Sgarbi è stato per un periodo consigliere di Berlusconi vabbè, te lo ricordi no? Te lo ricordi? Ecco inventore di liste c'era il periodo che inventava analisti cioè, cosa vabbè, fa? È un po' Islam è un po'... correva a depositare simboli dice cosa succede oggi? Con chi se la prendono? Islam bene simbolo no Islam andava lì correva è un creativo, depositava dai, è un creativo, il simbolo un creativo. Oggi ad esempio cosa farebbe oggi? Sicuramente no catastrofi ecco sicuramente andrebbe a depositare il simbolo no catastrofi un domani che c'è l'equinozio d'estate no equinozio d'estate. Cioè ogni volta che accade un caso di cronaca di attualità, quello deposita il logo. Macchina, è in macchina a lavorare come sempre, ha detto. Ma a lavorare in macchina, un lavoro in macchina uno, ma cosa fa? Ma dai, hai fatto l'esempio sbagliato per sostenere la tua causa. Numeri di telefono, vai, siamo qui alla grande, sul pezzo, non molliamo! E vi spiego perché dico non molliamo, perché c'è un vice sindaco esattamente a Norcia, dove le case sono crollate, tutto quello che sapete che non ripeteremo perché ovviamente non facciamo la cronaca qui. È appassionato del boia chi molla il sindaco numero di telefono vai Zanzarosi contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701 ragazzi dite a Parenzo di andare a fare in culo oggi. Non oggi c'è bisogno, viene fatto c'è in automatico. Gente che mi lavora, pare, c'è gente che lavora seriamente. Diego da Brescia e ascolta la zanzara. Anch'io sto scrivendo una relazione tecnica per la Procura della Repubblica. Pensa e intanto ascolta la zanzara. Pensa tu come dici come siamo messi. Ma no, ma la scrive sì, benissimo. Appunto, magari gli viene la carica. Gli viene la carica. Sono una bancaria, mi scrive una. Non sono una miserabile. Ho lavorato come tutti i medici, infermieri, poliziotti, eccetera, eccetera. Solo Parenzo non vuole fare un cazzo. Nulla, mi scrive nulla. Qui. Sì, esatto, vero, nulla voglio fare. Non tutti possono essere baciati dalla fortuna, stronzo. Amico mio, ma sei tu che accendi sta discussione, mica io. Sì, ma infatti io me ne frega niente. Se allora, pensi però, che non vada a dormire tranquillo, non me ne frega niente. A proposito di catastrofi, vogliamo dire qualcosa sulla senatrice dei 5 Stelle, la signora Enza Blundo. Enza Blundo. Che tu hai votato? Beh, ho votato sì. Certo, ho votato. Tu hai contribuito a votare sta gente. Assolutamente, quindi. Enza Blundo. Il TG1 ha scritto, ma che tanto lo sapete votato. Tutti ormai. Che tu hai votato. Sì, che io ho votato, lo ripeto, che io ho votato. Sì, che ho contribuito a portare al Senato, certo, non c'è dubbio. Il TG1 che tu apre, hai votato. Ma non c'è dubbio, sì. Va ripetuto. Il TG1 apre dichiarando una scossa di 7.1 e poi la declassa a 6.1. Questo scrive ancora questo, menzogne per interessi economici di governo. Anche il terremoto che ha distrutto L'Aquila fu addomesticato a 5.8. Il tutto per non risarcire i danneggiati al 100%. Allora, possiamo dire chiaramente una cosa. Possiamo dire chiaramente una cosa. Tu hai votato questa senatrice. Questo lo possiamo dire chiaramente, perché quello che la gente lo sa. Mille volte, l'abbiamo già detto. Va ripetuto fino alle 20:54. Non so a che ora sia la chiusura. Fino alle 20:54. Però scusa, che conta? Tu hai contribuito a mandare in Senato? Sì, in Senato. Questo personaggetto, come direbbe De Luca, questo personaggetto autorevole, è convinta questa signora Blundo, lo dico con tutto l'affetto possibile immaginabile, perché anche tu credi a queste cose? No, perché certe persone bisogna solo accarezzarle. Amica mia, non fa nessuna differenza per i risarcimenti se il terremoto è a 5.8, 4.5, 7.5, eccetera, eccetera. Appunto. È già stato detto e dimostrato in ogni sede possibile e immaginabile. E non siamo qui, Parenzo, a spiegare tecnicamente perché. E ci fu un tentativo da parte del governo Monti, ma nell'interesse dei terremotati, tra l'altro. Poi non se ne fece nulla in un progetto di legge, ma non stiamo qui a spiegare perché non vi vogliamo annoiare. Il risultato di questa cosa è che la Blundo ha detto sì, forse sono stato un po' affrettata, però combinano sempre dei pasticci chissà perché, cioè comunque la tesi del complotto resiste. Esatto. Non esiste nessuna relazione tra la magnitudo dei terremoti e i risarcimenti per i danneggiati dal terremoto. Dunque, quella che ha scritto la senatrice Blundo è una, tecnicamente, dico Parenzo, tecnicamente, una, come si dice, puttanata. Ma io aggiungerei anche l'aggettivo megagalattica. Ah, tu dici anche questo. Aggiungerei. Allora, anche Sgarbone scrive che Dio si è distratto. Adesso, ragazzi, non mi mettete in mezzo queste cose. Dio non c'entra una mazza, non c'entra. I terremoti sono delle cause naturali che non hanno nulla a che fare con le punizioni divine. Adesso vi dico perché parlo di punizioni divine, eccetera, eccetera. La religione non c'entra una beata minchia, nulla, niente, zero. È uno dei più importanti frontali della cristianità. Ora, l'idea che esso sia crollato dalla misura di una distrazione di Dio. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, pure Sgarbone, la distrazione di Dio, dai, su. Allora, il vice sindaco di Norcia si chiama Altavilla ed è un ex missino, il quale in un'intervista a Sky dice che lui non molla di un millimetro, resta lì ad aiutare. Poi, durante l'intervista, pronuncia una frase che è boia chi molla. Per chi sa queste cose, boia chi molla, caro Parenzo, come tu sai benissimo, è un vecchio detto, diciamo, missino, diciamo, sì. No? No, mi sembra, boia chi molla è il grido di battaglia, dicevano, certamente. Esatto, esatto. Purtroppo. Certamente, oddio, ha sentito boia chi molla, non vorrei che chiamasse cose, non vorrei che chiamasse no, in vacanza, in vacanza. Fa il ponte vacanza. Pure lui, chiaramente. È in vacanza, il vitalizio, per forza, che cazzo vuoi. Combattimento avviene soltanto, dico soltanto questo, durante i giorni lavorativi. Essendo questo un giorno non lavorativo, io chiaramente, da diritto dello statuto dei diritti dei lavoratori, sono a farmi i cazzi. Ma non miei. È vero, non è allora la... un momento, mi interpellate, ecco, dico per 40 secondi perché poi non ho tempo. Ma non è, essendo scusi, ma non è lavorativo, però non è lavorativo. Silenzio, gente come voi vi ha preso a sassate. Siccome oggi non è giornata lavorativa, ma non è vero. A questo punto mi dovete pagare tre volte tanto come da accordo sindacale mai stipulato. Quindi occupiamo la radio 24. Ha parlato quindi con Boccia? La... Io gioco a bocce, ma non ho nessun interesse in questo momento a dialogare con i padroni. Quindi mi avete interpellato, scatta l'aumento salariale perché oggi è giornata tecnicamente festiva. Se la vedrà lei con Boccia. D'accordo? Sì, sì, quindi sì. Non mi interessa nulla. Ma non è vero, quello. Non è festivo oggi. Se non viene pagato, se non è prefestivo, ma negli accordi che abbiamo stipulato. Non c'è nessun accordo. Abbiamo stipulato. Vi prendiamo a sassate allora, vi cacciamo a calci nel culo. Questo è tecnicamente quello che noi facevamo negli anni 60. Scappavate come conigli voi della Confindustria, come conigli. La marcia dei 40.000 noi la volevamo bloccare. Vabbè, c'era un cordone di polizia enorme. Comunque ora non volevo parlare di questo perché io sono in vacanza, perché oggi è una giornata di vacanza e di ponte. Avendo io il vitalizio ho diritto a fare vacanza. Arrivederci. Vabbè. Allora, però dicevamo del vice sindaco di prima della solita interferenza da parte di Capanna, che appena sente boia chi molla, appena sente cose che riguardano tempi andati, si intromette. In questo caso ha sentito anche giorni festivi, non festivi, diritti dei lavoratori, è entrato subito lì. Vabbè, che dobbiamo fare? Allora, il vice sindaco si chiama Altavilla di Norcia, ex Messino. Sì. Sentite a Sky. Però dobbiamo reagire, soprattutto noi amministratori, e quindi, certo, la Norcia che conosciamo bella, eccetera, comincia a perdere alcuni campanili, alcune cose. Comunque anche questa volta rimetteremo in piedi tutto. Speriamo. Non perde la fiducia in qualche modo. Io no, non perdo la fiducia perché provengo dalle file di boia chi molla. E mai mollerò. È fiero questo signore, fiero. provengo dalle fila di boia chi molla e mai mollerò. C'è da dire che la signorina di Sky, per carità, non è facile, perché bisogna anche essere un po', come avere qualche esperienza. Non ha capito una stramazza, cioè non è che ha collegato boia chi molla, periodo missino, eccetera, gli ha detto scusi, perché dice boia chi molla? Infatti senti. Tutti quanti urlavano Pierluigi, Pierluigi, io sono uscito per ultimo, chiaramente coperto di polvere, con un po' di paura sinceramente sì, però pure stavolta sono uscito fuori, perché io dico l'erba cattiva non muore mai, diciamola così. Vice sindaco, mi piace questo suo approccio alla vita, nel senso che comunque poi sapete... È caduta la linea naturalmente, mi piace il suo approccio, ma non era approccio alla vita, non ha capito che era un inno missino, cioè diciamo, un po' fascistoide, diciamo un la po'. No, vabbè, sì, un po' revanscista. Boia non si può neanche più dire questo. No, ma non era proprio del fascismo, credo, il boia chi molla, no? Era una era una cosa post-fascista. Tu sai, a Padova, davanti sul muro del mio liceo classico, sì, che hanno fatto? Scrissero i ragazzi del FUAN, del Fronte della Gioventù, boia chi molla. Sempre, sì. Gli amici Casarini e tutti gli altri, le mitiche tutte bianche. Oddio, mio, il giorno dopo scrivono sotto scorese, punto esclamativo. Le scoregge, che si vuol dire? Sì, esatto. Boia chi molla. Quindi viene fuori boia chi molla, le scoregge, punto esclamativo. Questo, i grandi, le tute bianche, pronte a intervenire subito, sono intervenute per evitare la lordura dei muri padovani dai fascisti, la lordura. Mamma mia, la lordura. Vago tasso di ideologia, vago. Cucia, ma il traffico durante la zanzara dovrebbe diventare un reato penalmente perseguibile. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Ci stiamo avvicinando nei sondaggi. Dai Donald! Beh, insomma, non tanto, però ragazzi, non succede. Ma se succede, non succede. Ma se succede, mamma mia. Peraltro io martedì sarò, come sai, in diretta dall'ambasciata americana per farti tutta la cronaca della notte delle elezioni. Ma notte, vabbè, notte che ci frega dalla notte a noi. Nulla, perché quell'ora non vota nessuno, effettivamente. Però è giusto per andare a fare un cocktail con i miei amici americani all'hotel, credo che Chelsea o a Roma. Quindi l'ultima parte di questa trasmissione, credo sarà tutta in diretta da là. Molto avrò bene, molto ambasciatori bene. Americani, avrò. Molto bene, non ce ne fotto un cazzo. Credo che ci non sarà fatto Donato un cazzo, però vabbè. Da Varese lì alla. E che ne sai? Hai visto mai? Lo faccio introdurre, lo faccio intrufolare. Lo invitano alla notte elettorale gli americani? Ma ti rendi conto tu? Ma te stai scherzando? No, davvero? Peggio Mauro potrebbe essere. Allora, Casteldazzano. Sai perché votano? Sai perché? Si votano, sì, ma. Sai chi ha deciso? Chiedi, sei il gran direttore? De Benedetti! Dici qua, De Benedetti. No, insomma, le lobby ebraiche. Non vota in America, De Benedetti. A proposito, il vice ministro di Israele, amici. Sì, un cretino. Il vice ministro di Israele, che non so nemmeno, lo sai tu come si chiama? Adesso ho perso il foglietto. Guarda, l'ho anche dimenticato perché. Ayub, là, un nome strano. Come sì, si no, chiama? Un nome strano, un nome israeliano. Vabbè, insomma, un nome strano per noi comuni mortali, scusa. Ma per loro è strano Mauro De Mantova, ad esempio. Ho capito. Cioè, che cazzo vuol dire? Ha detto che siccome l'Italia ha votato, si era astenuta sulla vicenda dell'UNESCO, eccetera, allora il terremoto era una punizione divina. Una stupidaggine mazzesca. No, un coglione, diciamo. Un coglione che dovrebbe essere preso a calci nel culo. Infatti, giustamente, il governo israeliano lo ha redarguito. Lui ha chiesto scusa, ma comunque mai una scusa. Dovrebbe essere cacciato. Lo ha redarguito, per giustamente. Altri, sì, anche altri... secondo me poteva essere cacciato. Meno male. Senza dubbio. Vice ministro, non so a che cosa, israeliano, adesso ho perso il nome, ma chi se ne frega. Vice ministro israeliano, il quale ha detto per la posizione che ha preso l'Italia sull'UNESCO, come sapete, eccetera. L'Italia, il terremoto è una punizione divina. Allora, come ma sai, dire... i cretini ci sono dappertutto, no? In ogni Ayub famiglia. Cara si chiama, a Ayub Mantova Cara. Sono superiori alla media del mondo. No, non puoi dire questo, stai dicendo che a Mantova i cretini sono superiori, non va c'è bene. un dato statistico della presenza di, diciamo, del clan dei Mauro da Mantova. Ma non c'è nessun clan, dai. Hanno fatto anche la figlia, l'ha rinnegato, è vero, lo dice sempre lui, brava. No, chiedo scusa, infatti, sì, è vero. Il vice ministro peraltro è druso, quindi non è neanche ebreo. È druso, vabbè, sì, mi ricordo giustamente. Così è il governo ebraico, governo di Israele. Non c'è Israele, non è ebraico. Vice ministro comunque è druso. andate su Google a vedere chi sono i drusi, per cortesia. Vabbè, branco di ignoranti salami. Ayob, cara. In Israele, come giustamente tutte le minoranze sono rappresentate, quindi al governo ci sono i drusi. Adesso, sempre il governo andate di Israele. Andate a vedere chi sono i drusi. Ha detto una minchiata, così, sì o no? Cacciato, ha detto deve essere una totale minchiata. Che deve, totale. Essere, e deve essere cacciato a pedate. E deve essere cacciato, secondo me. Okay. Dopodiché è un affare del governo israeliano. Infatti, giustamente lo hanno redarguito. Ed è, Castel d'Azzano. Si stanno preparando in tutta Italia a copiare l'esempio Goro Gorino, Parenzo, fatte una ragione, perché le rivolte con le barricate per impedire ai profughi, di cui non si sa nulla, di venire nei paesi, soprattutto nei piccoli paesi, dove c'è un'organizzazione pessima della vicenda degli extracomunitari, degli immigrati. Perché è sempre così, è sempre pessima, quasi sempre pessima. Che ne sai? Quasi sempre. Non sapevo che fossi anche un funzionario del Ministero degli Interni. Sono anche funzionario, sì. Castel d'Azzano, le voci, le voci della gente. Le voci della gente. Le voci della gente. Sei Poletti, quinta colonna. No, le mando. Le voci della gente. Mica le mando io. Ma sono chi quelle... sei? Quinta colonna. Appunto, sei. Poletti. Esattamente. Fai anche le voci della gente, Poletti. Allora voi siete molto arrabbiati, vero? Sì, abbastanza. Lo stai pigliando per il culo tu. Allora voi siete incazzati. Sì, allora voi odiate il governo, vero? Allora Renzi è un criminale, vero? Ma dice veramente... Hanno detto che è un criminale, hai sentito? Allora veramente non l'abbiamo detto, però. Allora quello è un assassino. Ma è un assassino, ma ha detto sono dei problemi di... Avete sentito la rabbia della gente, no? Hanno detto che è un assassino. Ma no, veramente ha detto sì, c'è qualche problema, senti, come è normale che ci sia. Ma è incredibile. Castel d'Azzano. È tutto da rifare da capo. Ma no, adesso vuoi distruggere pure le trasmissioni televisive. Ma no, oggi, ma perché oggi ti sei messo in testa di distruggere pure quinta colonna. Ma che no, io voglio molto bene, mi è molto simpatico. Dici che fanno disinformazione, va bene. No, non disinformazione, mi è molto simpatico anche il polettone, soprattutto. Faremo peggio di coro, va bene. Come aizza le folle, le cose. Sentiamo, dai. Siete pronti a fare la stessa cosa che hanno fatto a Goro, cioè non si passa? Sì. Anche peggio! Ecco, io! Perché anche peggio? Perché non li voglio io! Non li voglio vuol dire fare resistenza, fare barricate! Resistenza, fare barricate! Ma questo chi è, tra l'altro? Non è... No, magari non abita neanche lì. No, lui, no lui, no lui, l'intervistatore, eccetera, non me lo ricordo. Vabbè, dai, vai. Ancora. 18, la prefettura dirà ok, arrivano i migranti, non sapremo quanti. Saremo pronti ad accoglierli. Cosa farete fisicamente? Fisicamente faremo come hanno fatto a Goro, costruiremo delle barricate e cerchiamo di fermarli. Quello che possiamo fare lo facciamo. Ai limiti della legge. Tutto questo ha a che fare con che cosa? Un no all'altro? No, è un no perché prima dobbiamo essere tutelati noi italiani e dopo, siccome non vengono da nessun tipo e nessuna forma di guerra, ma vengono qua perché pensano di fare la bella vita. Ma che fastidio vi danno se arrivano? Io domani mattina alle 6 io mi alzo e loro stanno qua a mangiare, dormire, bere alle nostre spalle. Tra l'altro era l'arena questa qua, Davide, era l'arena ieri. Beh, cioè, per cui non è che l'arena è ottima, perché sempre le piazze. No, l'arena è ottima. Ma è ottima, scusa, ma hai detto che quelli aizzano e questi così, non aizzano invece. No, vai, vabbè, comunque non c'era io. Ma comunque va bene, dai, andiamo avanti, va bene lo stesso. Beh, è ottima l'arena. Va bene lo stesso. Bravissimo Giletti, molto simpatico. Peraltro, diciamo qualcosa su questa stupidaggine dei compensi, del tetto ai compensi nella TV pubblica. Non dici niente su questo, Ti interessa l'argomento? Non dici niente, alla gente interessa secondo me. Non dici niente su questo, Ho letto. Chissà perché non dici cosa? Niente perché sulla non dico cosa niente? Dei compensi. Perché non dico niente? Lo sappiamo perché. Per me è sbagliato. È sbagliatissimo. Deve seminare un po' di... È sbagliatissimo. Ma perché tu sei contrario? Come lo dicono tutti, lo sanno. No, che sanno? Sto seminando odio. Sto facendo disinformazione. Ma no, è vero. Un grande classico. Fare disinformazione come le volte fanno i cugini. Per me è una così. Follia, se l'azienda pubblica vuole pagare. Ma allora hai degli interessi, no, tu, no. Perché tuo fratello è pagato dalla RAI, lavora in consiglio d'amministrazione. Dice, no, guarda, che quel Cruciani lì non c'è da niente. Chissà perché si chiama Cruciani. Ma che cazzo vuol dire? Non so perché si chiama Cruciani. Allora, io vabbè, sono contrario al sotto. Tetto agli artisti, ma non perché. Non ho, figuriamoci. Sei contrario al tetto agli artisti. Assolutamente certo, giusto, contrario. Bravo, sì, contrarissimo, anche, contrarissimo. La zanzara. Cioè, aspetto la pubblicità o lo stacco al parcheggio per poter andare a casa e non avere interruzioni. Grandi. Oscar, mi aiuti? Eccomi. No, stai attento, prendila di lì. Ma cosa? È scivolosa. Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba. Prendi due elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. Mio papà, scusa ma chi è sto Parenzo che ho sentito in radio ieri sera? Guarda, per spiegarti, è un giornalista e quindi lecchino coi potenti e spietato coi poveri cristi. È ebreo, quindi vede razzisti e fascisti dappertutto, ma il primo razzista e classista è lui. Fa parte dell'intelligenza di sinistra, quindi frocissimo ma col culo degli altri. E in più è padovano. No, Leanca Padovan. Questo è molto ingiusto però, era bello dunque l'ho messo, ma è molto ingiusto, Però era bella Parenzo, dai, il finale era bello, era costruito bene o no? Boh, costruito così. Era costruito bene, dai, era costruito sì, bene. Ci avrà pensato dei giorni per elaborare questo dai, pensiero. Ma devi essere articolato, devi essere un po' dai. Comunque andiamo avanti. Ma devi essere leggero su queste cose, leggero, no? Leggero. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, io ammiro molto Massimiliano Parente, no? Cioè, penso che sia uno che ha delle idee, uno creativo, uno intelligente, diciamo. Massimiliano Parente è uno scrittore, non tutti lo conoscono, per carità. Però, ragazzi, dire che è divertente il crollo delle chiese, ecco, non è bello. E lo dico io che sono, come sapete, non anticlericale, forse di più di anticlericale. Però non è che mi auguro il crollo delle chiese. No, appunto. Francamente no. E penso invece che le chiese come monumento, no? Come siano delle cose spesso straordinarie. Quando io vado nei posti, la prima cosa che uno fa quando va in Italia, un turista che cosa fa? Non è che va a vedere una chiesa. Senza dubbio. È normale che sia così. Senza dubbio. Che sia ebreo, che sia ateo, che sia quello. Va in una chiesa perché sono delle cose meravigliose da vedersi. Bravo. Diciamo architettonicamente meravigliose da vedersi. Sì, è la nostra storia, dai. Ma non c'è niente, è così. È così. E dunque, fare la battuta dicendo è divertente, però è divertente vedere il crollo. Questo è uno chiese. Scrittore. Sì, Massimiliano Parente, uno scrittore. Scrive anche per il giornale, eccetera. Ah! Vabbè, non solo per il giornale. Che cazzo c'entra? No, scusa, no, va bene. Sì. No, adesso non è che se uno scrive per il giornale dire... sia anche un cretino. Dai. No, dai, ma chi ha mai detto una roba simile? Stiamo scherzando, ma figuriamoci. Però si è dimostrato in questo caso un cretino, diciamo la verità, un imbecille. Poi uno dice scherzavo, ma scherzi il cazzo, che cazzo c'entra il crollo delle chiese? Come può essere divertente il crollo di una chiesa? Se vuoi fare una stupidaggine colossale. No, cioè come può essere divertente? Poi adesso diranno voi che ne dite di tutti i colori o che fate intervenire chiunque, certo, ma cosa c'entra questo? Non c'entra assolutamente niente, non è che sto impedendo a Parente di dire una puttanata, a uno di dire una puttanata, per me può dire quello che vuole. Sono libero di dire che è una puttanata perché non è nemmeno divertente, cioè non è che è perché dovrebbe essere divertente il crollo di una chiesa, cioè non c'è nulla di divertente il crollo di una chiesa, non è che le chiese sono portatrici di male di per sé, no, cioè di per sé come architettonicamente parlando, ma no, stai come scherzando, opere è una cosa meravigliosa, dai. Non diciamo puttanate, ragazzi, dai. Adinolf si è espresso su questo. Adinolf, vai. Crollata San Benedetto a Norcia, quello è un simbolo della nostra radice, della nostra capacità di resistenza per secoli, e aver letto uno scrittore che ha detto che davanti a quella chiesa crollata lui rideva, che la trovava divertente, è una vergogna nazionale che dobbiamo sottolineare con estrema nettezza. Chi ha scritto questa bestialità, per favore, non fatecelo più trovare sui giornali. Vabbè, adesso addirittura non fatecelo più trovare sui giornali a scrivere, dai, su, non esageriamo. Adinolfi, come al solito, va dall'altra parte per carità, va bene sottolinearlo, dirlo, sì, una puttanata di assoluto cattivo ma gusto. Sì, vabbè, adesso hai detto una cosa, vuoi dire, abbiamo cioè, detto a te non piace il cattivo gusto, la parola cattivo no! gusto è di assoluto ma cattivo gusto. Ma sì, ma è banale gusto. Dirlo, è normale, è peggio di cattivo gusto, è ancora peggio di cattivo gusto, è una stronzata, una puttanata, una cosa ridicola, perché fa torto, credo, all'intelligenza, non c'entra assolutamente nulla, no? Vabbè. Raffaele Cosenza, vai Raffaele, vai, dimmi. Buonasera. Dimmi. Senti, ti volevo dire, io sono uno di quei miserabili dei miserabili, perché anche in questo periodo dove c'è la possibilità di avere il ponte lungo, devo lavorare. Bene, ottimo, molto bene, lavoro. Molto però bene. Però volevo dire che Parenzo è più miserabile di me. Sì, perché? Perché avendo le possibilità, però sta lì in radio. Vabbè, quello gli fa onore, però. Quello gli fa onore il fatto che sia il lavoro onora sempre. Poi gli volevo chiedere se era possibile, a spese di Radio 24, non una spa a 5 stelle con 5 massaggiatrici. Io mi accontenterei anche di una piccola spa con una sola massaggiatrice. Da fare in modo. E chi paga? Radio 24. E perché dovremmo pagarti la spa? Scusami, sì, amico, non si capisce il motivo. Ma, cioè, scusa, perché sono un vostro affezionato. Questo può essere un'idea per un grande concorso. Offriamo due giorni in una grande spa. Mi stai dando un'ottima idea. Due giorni in una grande spa, con a disposizione pure magari qualche signorina, qualche intrattenitrice. Quelle devono essere presenti, se no non ha senso. Non è che te possiamo offrire il massaggio. Sì, però, amico mio, il massaggio che sicuramente non me lo può fare Parenzo e neanche non tu, ci penso minimamente. Ma non è che non è che noi possiamo procacciarti una puttana, però, caro Raffaele. No, quella, no, non voglio una puttana. Anche perché non è che bisogna distinguere. Non è che bisogna. Ogni tanto sono anche degli uomini che fanno i massaggi. Non è che bisogna mettere insieme massaggiatrici e prostituzione. Sono due cose diverse, altrimenti abbiamo già tanti problemi. Non vorrei unire a questo problema il sindacato dei massaggiatori italiani o delle persone che sono nelle spa e che dicono: noi non siamo prostitute, ma siamo delle grandi professioniste. Grazie Raffaele, Marco da Salerno, vai Marco. Marco. Parenzo. Chi è Marco questo qua? Chi è Marco? Sì, Marco. Stai calmo, stai tranquillo. Che succede? Sei esaltato? Parenzo, sei un coglione, Parenzo. Va bene, allora. Piacere, Parenzo. Piacere. Cosa stai lieto. Dicendo, Marco? Non ho capito. Non ho capito, Marco. Cosa stai dicendo? Marco. Parenzo, sì, ma fatti una striscia in meno però prima piacere, di chiamare. Piacere, Parenzo, dica. Fatti, Parenzo, una, fatti Parenzo, una striscia in meno. Piacere, Parenzo, mi dica. No, io le strisce non me le faccio, Peppe. Non me le ho faccio. Capito, ma allora. Ma sembrerebbe di sì. Parenzo, io lavoro 7 giorni su 7, capito? E tu vai nella spa. Vai, ho capito, ma se uno vuole. Ma se uno vuole andare nella spa, non è che è colpa sua, non è che la gente che va nella spa è un ma criminale. Ma io non sono andato nella spa, purtroppo. Va bene. Perché tutti i diritti di questo mondo. Fatti una striscia, fatti una striscia di meno. Sono sempre 3 Italie, 2, 5, 7 Italie. Prima capito? Di chiamare, fatti una striscia di meno. Vincenzo da Palermo. Beva di meno anche, beva Vincenzo di meno. Vincenzo da Palermo, vai. Pronto, buonasera. Eccoci qua, vai. Oggi hai ragione Parenzo, forse. Volevo dire una cosa. Vai, Vincenzo, dimmi. Mi senti, volevo dire una cosa. Non so perché Radio 24 ancora mantiene. Ma non mantiene nessuno, ma non no, mantiene. Ma tu non perché hai capito una mazza, cioè non hai capito nulla. Che vuol dire perché Radio 24 mantiene ancora Parenzo nel programma? Perché? Che ti cazzo sentiamo, perché? Sentiamo l'argomentazione. Perché? Sentiamo. Perché non è d'accordo, non è d'accordo nelle tue iniziative di sessualità. Ma è certo, ma non è d'accordo, va benissimo a dire, a parte che non c'è nessuna iniziativa. Non c'è nessuna iniziativa. Sono passata però queste due campagne, sono passate queste due campagne di sessualità. Ma che cazzo vuol dire? Ma hai capito questo programma che stai facendo tu? Arrivato a una certa ora è molto piacevole perché tu inviti a trans, inviti a persone che inviti hanno a trans. Sì. Beh, perfetto, stupendo, cioè, puttane, trans, cioè. Il lunedì ecco, prima bravo, del ponte bravo. Vedi che te l'avevo detto capire, io. Se lui era lì stabile per sì guadagnare soldi tramite le ma barere. Saranno cazzi suoi se sì, è stabile sì o no, ma a sì, te che sì, ti interessa così, se sì ti piace bene, se non ti piace mandalo a fare in culo oppure non sai non ascoltare. No, ma non c'ho bisogno, poi ti volevo dire beh, scusami Vincenzo, scusami un attimo, a te ti piace quando io chiamo. Ma a me piace la trasmissione, io l'ho apprezzo pure come persona, lo guardo anche alla festa, ma non si permetta di dire queste cazzate che su siamo che veramente della gente chissà perché, però no lui con quello con tutto quello che arriva in trasmissione, chi parla bene, chi parla male, lui ci guadagna, si sta campando su questa trasmissione. Ma non ti preoccupare, stai tranquillo, stai tranquillo, Vincenzo, vai. Uno può dire quello che vuole, anche sputare merda su questa trasmissione. Qui su quelli che chiamano. Ma anche qui è consentito, anche se uno dice a me mi fa schifo, ma va benissimo anche questo, purché ci sia vita, purché ci sia vita. Un suggerimento che ti volevo dare. Dimmi. Fai un'ora di trasmissione di quelle che piacciono a noi, quelle che piacciono anche a te. Ma a noi chi? Ma tu sei rappresentante di noi ascoltatori, di perché vedo che ne hai tanti di ascoltatori. Ho capito, ma tu non è che sei rappresentante. Su che cosa vorrebbe lei informarsi? No, sentiamo, che è questo punto interessante. Sulla leva del piano Juncker, ad esempio, il fatto che in Italia, come scrive... non fare tutto la persona alla persona. Allora, Vincenzo vuole sesso, mignotte e transessuali, giusto? Bravo. Ciao Vincenzo, ciao. Antonio Pavia, vai, Antonio. Abbiamo registrato quello che vuole Vincenzo, vai. Sì. Dimmi Antonio, vai. Niente, guarda, volevo fare un grandissimo complimento a te perché all'inizio... Non devi farmi complimenti, Antonio, dai. No, perché sai, ti ringrazio per il tuo coraggio. Perché non c'è nessun coraggio di che cosa, che ho fatto oggi? Sono tornato da Londra in aereo, non è una cosa di gran coraggio. Attacchi a destra e a sinistra mi fa piacere, mentre invece, se mi è concesso per un pochi secondi... Ti è concesso tutto, vai. Sento la necessità proprio, la necessità, va sì. dentro, da mandare a fare in culo il tuo partner, il Davide, perché a parte che lavoro da stamattina alle 5, come tante persone, sono ancora al lavoro, e non mi piace la sua tenuta, lui ha la verità in tasca su ogni cosa che... No, sul mio punto di vista nessuna verità. Sì, ma non mi piace perché tu sei saccente della radio italiana, sì. Quindi mi sei antipatico, volevo soltanto dirlo. Messaggio, cioè, gli vuoi dire che sei antipatico, punto. Sì, profondamente antipatico. Vabbè, diciamo che sei anche moderato rispetto ad altri che chiamano. Sei moderato, fra poco faremo riascoltare. Non riesco a essere violento. No, dispiace, perché però... tanto non devi essere violento per niente. Adesso, per esempio, dopo questa piccola pausa che abbiamo ogni tanto, piccole pause, poche ne abbiamo in questa trasmissione. Meno male che ce ne sono di pause. Beh, abbiamo pochissime pause, va benissimo. Certo. Dopo questa piccola pausa, vi faremo riascoltare la signora Lores. Lores d'Arcais. Bravo. Che mondo sarebbe senza la zanzara? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Pneumatici invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. La zanzara. È semplice, se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 717 1701. Siamo al top. Allora andiamo con Bari, Giuseppe, vai. Salve Cruciani. Dimmi. Volevo solo fare una domanda a Parenzo. Ma perché ogni volta, a parte che io sono uno dei miserabili che lavora e non fa il ponte, vabbè, ma perché ogni volta lui associa magari il non volere l'immigrato con razzismo? Lei sa cos'è il razzismo? Non ho capito, scusami Giuseppe, non ho capito bene. Allora, io penso che da enciclopedia il razzismo è pensare che una razza sia superiore. Vabbè, allora razzismo. Adesso non ci spiegare cos'è il razzismo, no. Appunto, sto dicendo, perché lui dà del razzista a tutti, così, anche se in realtà non sono mai quasi nessuno è veramente razzista. Così come... Vabbè, allora? Appunto questo, no, niente. Vabbè, Roberto da Ferrara, vai, Roberto Ferrara. Adesso ragazzi, non passiamo tutta la trasmissione all'interpretazione delle frasi di Parenzo, siamo alla follia, cioè, ci sono tante cose, Roberto, vai. Eccomi qua. Dimmi. Sono io? Sì, fino a prova contraria sei tu, sì, dai. Sì, voglio solo parlare di Gorino e del fatto che tutto quello che ho sentito, in effetti, quello non tiene conto della realtà del paese di Gorino. Vi stiamo parlando di 400 anni. sì. E secondo me del fatto del razzismo, del fatto di non volere gli stranieri, così proprio non c'entra niente. Questa è una comunità che da sempre è stata contro al potere costituito. Vabbè, adesso devi fare la ci devi fare la sociologia su Gorino, no? No, non è che la sociologia, il fatto è che ne ho sentite tante, sta gente qua non è vero che è razzista o non ha accettato gli stranieri, li ha sempre accettati. Quando hanno cucinato la salsiccia è perché avevano vinto nei confronti del potere costituito, che era quel deficiente del vabbè Roberto, ma è una cosa che abbiamo già detto la settimana scorsa, almeno secondo me, secondo Parenzo no, secondo me quella specie di rivolta è stata determinata dal fatto che le persone non ne possono più di come viene gestita in generale l'immigrazione in Italia, una rivolta di pancia. No, ma quello che voglio dire è che non ci pensano neanche. Loro hanno festeggiato la loro rivolta. Questa è gente che ha sempre votato per il Partito Comunista, per l'estrema sinistra. Se ci fosse il potere dell'estrema sinistra voterebbero per l'estrema destra. Sono contro. Questi sono pescatori tagliati nel legno. Per cui non c'entra assolutamente niente. Ma non giustifica nulla questa cosa, che non mi interessa infatti perché hanno votato. Io non è che faccio una cosa di chi vota Parenzo, sinistra, destra. È il contrario, alle barricate per fermare, esatto. Per fermare i profughi. Guarda che c'erano dei comuni guidati, comuni guidati dal Partito Democratico che hanno rifiutato i migranti. Quindi per me non è una questione di destra o di sinistra. Così. Voi pensate a una università di questi problemi. Non è così. Loro hanno fatto le barricate perché il prefetto aveva ordinato una imposizione alla loro comunità di 400 anni. Certo. No, solo per questo. Ma, solo vabbè, per però, questo. Diciamo, ma quando lo Stato ordina di far passare una strada per una proprietà privata e applica il cosiddetto esproprio per l'interesse collettivo, cioè per l'interesse superiore, è la stessa cosa. È la stessa identica cosa. Perché quando, ad esempio, in Val di Susa lo Stato decide di espropriare alcuni terreni perché di là deve passare la TAV, non saranno 40-50 persone a bloccare un'opera che interessa milioni di persone. Va bene, Roberto, ho capito. Giustissimo, no, Roberto, questo, ma Roberto. Ti dirò di più, che Davizio, la cosa che Roberto. Più mi ha dato fastidio è poi l'esternazione dell'arcivescovo di Ferrara, che addirittura ha detto che questo comportamento è contrario ai principi della cristianità. Io che non sono clericale assolutamente e penso che sia stata una... Io dico, ma quel arcivescovo, il suo gregge, lo trova nel popolo di Gorino, doveva andare soprattutto lì per prima cosa. Va bene, ciao Roberto, ciao. Parenzo va sempre nelle spa extra lusso, io lì l'ho conosciuto, aveva questa asciugamano legata in vita e un'espressione allucinata mentre si faceva fare un massaggio in un noto hotel in riva allo stretto di Messina. Ciao Parenzo, difensore dei proletari. Per favore fatemi conoscere Lores da Vicenza, la sua voce mi arrapa una cifra. Vabbè ragazzi, adesso arraparsi per Lores. Vedi che ti ho detto chi chiama oggi? No, arraparsi per Lores, no, questi sono messaggi, ma arraparsi per Lores è un po' esagerato. Adesso vi faccio riascoltare Lores. Con una premessa, ragazzi, nelle spa ci vado anch'io, eh. Cioè, ed è straordinario andare nelle spa. Ma io purtroppo è tantissimo che non ci vado, queste da... a Messina non sono mai stato, peraltro. Vabbè, so quello da riconosciuto, quello ti ha riconosciuto, dai. Sei andato in una spa giurare, Messina, qual è il problema? Ti posso assicurare che non mi ricordo di essere mai... se mi davo un indirizzo io a Messina, non credo di aver mai dormito, peraltro. E questo purtroppo è abbastanza... Lores da Vicenza, andiamo. Ah, non è Flores d'Arcais? No. Io pensavo fosse il professor Flores, mi sembrava strano, però temevo. Una italiana nata a Atene, 45 anni cosa fa, c'entra? Ha pagato sempre, tutto in regola, mai preso neanche una multa nell'automobile, non può pretendere una casa popolare, una stanza, un giaciglio, perché non ha reddito. Cazzo schifoso, ma l'ho detto, stato italiota di merda, domani lo sporco negro che arriva è in hotel a 4 stelle. Cioè, questa dice chiaramente lo sporco negro di merda. Lo sporco negro di merda. È uno dei casi in cui la parola negro, che secondo me si può utilizzare tranquillamente, beh, insomma, sentite tutti come viene utilizzata, no? Sì, qui si può dire che c'è del razzismo o no? Sì, sì, assolutamente. Ma ti chiedo, sono persone che lo rivendicano, persone che lo rivendicano. Formaggio l'ha rivendicato, non è che non l'ha rivendicato. Non cioè, voglio neanche sentire parlare. Signor Gio Formaggio, signor Gio Formaggio, parleremo dopo. Tra l'altro, il sito è stato bloccato da Anonymous. Bene, grande Anonymous. Primo, Atene non esiste nessun hotel a 4 stelle perché è un pisciatoio d'Italia. Perché sono ci passo sempre da, ma non c'è manco una stella a Atene. Non c'è niente, niente. Il nulla c'è a Atene, il nulla. Se no 24.000 persone che si rompono i coglioni. Ma tutti merda che non ma perché sei così? Una merda. Ma perché è pazza? Imbecille, deficiente, comunista di merda. Ma hai detto che devono annegare tutti? Li hai chiamati negri sporchi di merda? Sì, sporchi negri di merda, devono annegare tutti. Vabbè, è una follia. Ma se... Fornisci il numero alla procura, dai, ti prego. Non eri indipendentista veneta, te? Sì. E allora che ti frega dell'Italia? Scusa, che ti frega dell'Italia? Ma che cazzo dici? Ma scusa, è una spostata, è una spostata, dai, un evidente spostata. Ma va, deficiente, è una spostata. Spostata, ma perché? Spostata, ma perché? Spostata, spostata. Ma perché? Fornisci il numero di questa alla procura, ma dai, basta, sì, per smettere. Deficiente, dimmi che vengano, dimmi si che occupi, vengano, si occupi della fellazio, che coglione, è l'unica roba forse, ma qua non forse non della quale si può occupare, va. Ma perché? Che ha fatto? Che ha fatto? Si occupi della fellazio, merda, vai, imbecille. Ma perché li chiami Renzi napolitano? Fermo, stai, ma no, stai tranquillo. Allora, Lores, ma perché? Ma che c'hai? Ma perché ti è partita la brocca così? Lei è una spostata. All'improvviso gli è partita. Lores, coglione, perché tu stai solo a metterlo in culo. Ma lei è una signora spostata. Allora ragazzi, non so se sia già partito l'avvertimento alla procura di cui parlava Parenzo, sull'Ores. Mi auguro. Lores da Vicenza, avete sentito tutti la settimana scorsa, non è molto diverso, solo che Lores alcune cose le dice apertamente. A me, perché uno dice, no, ma tu fai intervenire queste persone, vi spiego molto semplicemente, cioè alcune cose che le persone si tengono dentro e che magari dicono in maniera edulcorata, ci sono altre persone, come per esempio Lores, che dicono esattamente quello che pensano. Allora io ho molto più rispetto per chi dice quello che pensa, o comunque lasciamo perdere il rispetto, faccio intervenire soprattutto le persone che non nascondono, non edulcorano, non mascherano quello che pensano apertamente. L'avete sentito, cioè il bianco è superiore al nero, il nero è quello che è chiamato negro, negri di merda, e voglio che i barconi affondino, eccetera. Sì, eccetera. Ma non c'entra niente, tutta sta roba qua che riguarda una percentuale bassissima della società italiana. Beh, 0,01. Beh, a caso stanno un po' qua e un po' a Radio Padania. Questi matti chiamano qua perché 0, hanno coraggio. Lo dici tu, lo dici sì, tu 0, ma sicuramente l'Italia non è un paese razzista, tutt'altro. È il paese dell'accoglienza, è il paese delle cooperative. La percentuale, certo, non è lo 0, che cazzo c'è? Non è lo 0,001. No, purtroppo no. Quindi questa gentaglia perché fa danni? Perché sembra essere la maggioranza, ma cosa che invece vero, non è, questo non è il punto. Vero, ma perché la Lores in uno stato normale, sai dove sarebbe? Dove? Sarebbe sicuramente ricoverata in un'ottima struttura preposta. Ci sarebbero dei sanitari che 3 volte al giorno gli portano una prima colazione, una colazione e una cena. Alle 4 le portano il tè, con il tè detainato, perché con 2 fette biscottate già spalmate con la marmellata, perché non le danno neanche il coltello. Cioè, uno perché che lo reputano... pensa così, secondo te, non ha diritto di ad avere una vita normale? No, ma non ha una vita normale quella signora. Ma perché quella signora lì chiama 2 volte al mese in questa trasmissione. Ma... non ha una vita normale. Ma non sono io a dirlo, ma chi l'ascolta, ma che è vero, normale, che è un imprenditore, che è un camionista. Ti sbagli. Il camionista normale sa anche lui che Lores non è una persona normale. No, la puoi trovare a Rocky Horror Picture Show, la puoi trovare. Sì, la puoi trovare nei teatrini dell'orrore. Ma che la puoi trovare. Il suo cervello viene usato per le sperimentazioni, per capire esattamente Paolo fino a che punto. no, capito? L'animo umano può, capito, il cervello umano può essere degradato. Paolo da Belluno. Non Paolo. È normale. Il danno lo fai tu perché fai passare ma per normale. Ma quale danno? Ma smetti. No, fai passare non ho per detto normale che è normale. Ho detto. Ecco, perché fai passare per normale la pazza. Che nell'ordine, cioè quel che ha detto qui, poi uno può dire: vabbè, è un po' razzista. Ma c'è del resto, perché questa qui non si sente neanche italiana. Abita in Veneto da 50 anni sì. E ce l'ha con la Repubblica Italiana. Dice di avere non un la passaporto veneto. Non la cioè, tu capisci che no. Come faccio io a dire che non. Cioè, il razzismo è solo una parte, c'è tutto il resto che è altrettanto, ma non grave, grave dal punto di vista patologico. Ha chiamato una volta dicendo che lei, se vede un carabiniere, gli sputa in faccia. La Lores, che ha un fucile, spara dalla finestra. Cioè, è una matta, ragazzi miei, ma non sono io a dirlo, mi pare evidente. Paolo Belluno, vai, no, Paolo. No, era spostata, dai, ma bisogna dirlo, ma non è solo razzista, quella è razzista, vabbè, è razzista, d'accordo. È una spostata, Paolo, è una povera Belluno. Spostata. Lì, lei, la sorella, peraltro, la l'altra sorella. Volta, una volta mi ricordo una cosa allucinante, lei e la sorella che diceva di essere lesbiche, che volevano fare una roba a trecco, ma non lo so, lei diceva che è lesbica, non me ne frega niente, ma è una, sono due spostate, cioè non sono neanche indipendentiste venete, perché sono semplicemente due spostate. Aspetta Paolo, che abbiamo trovato il numero del vice sindaco di Norcia, eh. Aspetta, aspetta che lo chiamiamo, aspetta, aspetta. Pronto? Altavilla? Sì. Buonasera, Radio 24, come sta? Radio, come so, se le dico bene dico una grossa bugia, non è mio costume dirle, quindi... Certo, dico... certo, certo. Ma senta... In mezzo... Dove si trova adesso? E qui al Tocchi in mezzo a Chiesale, perché non abbiamo più la struttura, però stiamo, ecco, c'è la protezione civile che ha messo una sala operativa, certo. Stiamo cercando ancora di mettere a punto diverse cose, stiamo creando un nostro cocco su una tenda, sì. E quindi insomma, ecco, operiamo in questo senso. Senta vice sindaco, ma scusi un attimo, ma la questione delle tende, no? È meglio restare in tenda come vogliono gli abitanti? Allora, guardi, la questione subito. Delle tende, dico, noi siccome siamo abbastanza democratici, che se ne dica, sì. Abbiamo dato le due opzioni, la prima chi vuole può partire per gli alberghi con sì, chiaramente sì. Come hai pure. E sembrava che non volesse andare nessuno, invece ne abbiamo portati, non l'abbiamo portati, non posso andare neanche in maniera con la propria macchina, sì. Circa 600. 600 in albergo, sì. Va bene. Sì. Esatto, poi? Quindi abbiamo... Poi adesso questa notte sono arrivate, le stiamo ancora montando, tre tenso strutture molto grandi, potranno portare tranquillamente 300 posti letto. Alcuni vogliono ancora queste tende, stanno arrivando, ma lei che consiglia, scusi, la tenda o andare in albergo? Andare in albergo perché qui il freddo si sente, stamattina stavamo sotto zero. E la gente però vuole rimanere accanto alla casa, accanto alle sue... Allora ecco, accanto la tenda, accanto alla casa, non so come sia possibile fare perché i servizi, la luce... poi ci sono, c'è il pericolo magari di altre scosse. Ma soprattutto le fogne, ma le fogne dove vanno a fare i loro bisognini? Mi perdoni, non c'è dubbio, volgarità. non c'è no, ma per carità. Allora, chiaro, noi dobbiamo mettere delle grandi che sono fornite. Lei dove va, per esempio? Dove dorme? Io questa notte ho dormito in macchina, la notte passata. Ora dormo in macchina che... Non si molla di un millimetro, non si molla no, di... assolutamente. Poi no. Lei, anche poi lei... Non mi faccia sta provocazione che ho creato un... Oh, ho letto, lei ha detto boia chi molla, è mica un delitto, sì, appunto, appunto, o no, o sbaglio? No, assolutamente. Mica lei, come dire, non è che lei è uno di quelli che rinnega il suo passato? Mai, assolutamente. Ne sono fiero. Appunto, c'è lei che era Missino, scusi, vice sindaco? Sì. Ma diciamo la verità, lei è proprio un nostalgico, diciamo, no o no? No, un nostalgico no, io sono uno che aveva delle idee buone nel 68 quando era dura professarle, perché lo so io quello che stava. Cioè ha picchiato anche. No, l'ho preso, se no io sono un buono, mi creda, sono un buono. L'ho preso spesso sì, ma io per natura mia sono un buono. E quindi sta... Ma comunque, com'era la cosa? Boia chi molla? Com'era il... Io avevo detto, no, io qui la situazione è molto brutta, eccetera, però per quanto ci riguarda, io provengo dalle file del boia. Ho detto del boia chi molla, basta. Né cioè, non è che ha fatto faccetta nera. Ma che ripiato, cioè, no, per carità. Però ha anche detto, là a Norcia non faremo mai una moschea. Questo l'ha detto, mi pare chiaro. Eh beh, dico, non vorrei che noi buttassimo a Norcia via le nostre chiese e dovessimo creare una moschea. Non ho detto non faremo mai una moschea, ho detto non vorrei che a Norcia non sappiamo più una chiesa, ma magari qualcuno... Vabbè, ma chi è che pensa di fare una moschea? Scusi. Ah, era una provocazione la mia. Io sono un grosso provocatore. Ma lei deve, continuare a fare così. Le mie idee non le voglio nascondere. Io ho la bellezza di 66 anni. Però scusi, Pierluigi, ti posso dare del tu? Posso dare del tu? Allora, io dico una cosa, ma... aspettate, dico una cosa, ma lui che cosa avrebbe fatto? Avrebbe rimesso... Lui, il Duce. Non lo so. A Norcia avrebbe risolto la situazione in 448, diciamola... o no? Potrebbe darsi che avrebbe, beh, quando c'è una sola persona a dirigere tutto quanto, magari più facile, più facile. Cioè, ha fatto anche delle buone cose nella sua vita, il Duce, o no? Direi proprio di sì. È stato un grande statista o no? Dal punto di vista dello statista, sicuramente lo è stato. Ne abbiamo di tanti grandi in Italia. Però lui il più grande, lui il più grande. Ora non lo so, il più grande in assoluto, io non credo tra i più grandi, però tra i più grandi, ha portato l'Italia dove l'ha portata. Ma che ha fatto di buono, per esempio? Scusi se glielo chiedo, ma anch'io sono un appassionato. Tutta quanto la bonifica dell'agro romano ha riportato la città di Roma in tempi che erano abbandonata, sì, a certi livelli. Le infrastrutture, tutte le infrastrutture, tutti gli ospedali, ma ancora buona parte del codice Rocco, lei sa bene da dove viene, quindi è inutile. Il servizio sanitario nazionale, esatto. Poi dopo che ci sia stato tutto quello che riguarda purtroppo le leggi razziste e quant'altro. Quello che vogliamo fare. Non scherziamo, quindi. Leggi razziali. Forse altri tempi per poterlo fare, oggi non più, però io amo la vera democrazia. Certo. E ognuno deve professare ciò che crede senza essere preso, minacciato. Come dire, oggi ci vorrebbe la mano dura di qualcuno, dico, in generale. Sicuramente sì, in generale sì. Dare una ripulita ci vorrebbe. Una ripulita. Sì. Parliamo di terremoto, che è meglio. No, certo, ma una dittatura un po' morbida ci vorrebbe, per caso. Non arriviamo a tanto. Io amo. L'ho detto prima, la democrazia. Lei ha dei cimeli, no, del fascismo, no? Io no, non ho nessun cimelo, i miei cimeli sono di caccia. Lei è un cacciatore, questo è buono, che lei è un cacciatore, è un cacciatore. Quante prede prende? Sono selettore per la regione dell'Umbria e per la provincia dei Caprioli, sì. Quindi credo normalmente le vite sulla caccia sono due l'anno. I cinghiali abbiamo una bella squadra. Lei caccia cinghiali, Cinghiali e Caprioli. Tordi, una quarantina di pezzi all'anno li ammazza, quarantina. Tranquillamente. Una quarantina di caprioli. Due caprioli. Vengono assegnati i capi perché è una caccia particolare. Certo, non c'è dubbio. Parenzo, che dici del vice sindaco? Mi pare che la situazione lì sia talmente drammatica che voglio dire. La situazione è ancora molto dura. Che avere un vice sindaco che sente il bisogno di fare battute sul boia chi molla e grido di battaglia è sconcertante. La cosa diceva boia chi molla e grido di battaglia, dicevano i fascisti negli anni 30, al grido di eia alla. Non c'ero in quel periodo, ma ha fatto una battuta totalmente inopportuna e già c'è la tragedia del terremoto. Non era una battuta. È peggio, mi sento. Io non mollo. Giusto? Mi può far parlare? Io ho detto che io non mollo. Esatto, noi facciamo parte di una persona che non molla. Boia chi molla, che mi pare una battuta di pessimo gusto. Ognuno di noi la vede alla sua maniera. Ed è io anche dico, di pessimo gusto che lei rivendichi di essere un erede. Io non rivendico nulla, assolutamente no. Io sono un grosso democratico, più di molte persone che lo millantano. Capisce? Io ho detto la mia idea. Norcia è stata distrutta. Se mi fa parlare, perché non vede chi è che non è democratico e chi non fa parlare. Ma non ha fatto una battuta. Rivendica il suo passato. Ha rivendicato il suo passato, punto e basta. Però anche lì, ma che bisogno c'è? Prego. Con la tragedia immane che stanno vivendo Fallo parlare. Il vice sindaco del MIS. Dica. Dica. Io ho detto soltanto che il boia chi molla è per dire che io non ne mordo in un momento come questo di difficoltà. Sono pronto a far ricostruire la città come è stata ricostruita altre volte. Stop, fine. Non è motivo di polemica questo qui, non c'entra la politica, è un gesto là, di forza, di volontà per ricostruire. In quel contesto là, rivendicare le proprie origini fasciste mi pare una cosa di una sciocchezza. Io sono stato iscritto all'MSI, mai è fascista. Vabbè, ho capito, Io non ho l'età per aver partecipato al fascismo. nazismo, quindi non posso essere lo stato. Quindi peggio ancora, un nostalgico. Appunto. Vabbè, uno non è, può essere. Non nostalgico può... forse lei di certe cose come le pronuncia, soprattutto con la grinta e la cattiveria con le metti. L'ho detto con molta semplicità. Un incitare a lavorare a ricostruire. Vedo che lei invece ci mette molta cattiveria, che è fuori luogo, perché noi in questo momento dobbiamo ricostruire, non fare polemiche su certe battute. Ma io non ho dubbi, infatti, intelligenti. Non voglio pazienza. Polemizzare, non voglio polemizzare con lei perché oggi c'è il terremoto al centro della vicenda. Ma non è un problema, ognuno di noi è libero di parlare come vuole, fino a che c'è democrazia. Ritengo che con le persone come lei la democrazia vada a cadere. Arrivederci. Grazie a lei, buonasera. Arrivederci. Bruciani, hai rotto il cazzo, sei diventato vecchio e noioso, fuori dai coglioni. La Zanzara. Sentito un Maurizio Crozza quasi diventato vegano o comunque abbracciare qualche tesi cara al veganesimo, Parenzo. Ora c'è anche un po' di ironia naturalmente, però sicuro. aspetta però senti bene questa roba, senti. Con tutti sti allevamenti noi non ci fottiamo solo la terra e l'acqua, perché ci fottiamo anche l'aria, perché dagli allevamenti intensivi arriva il 20% dei gas serra. Cioè, ogni bistecca che ci arriva in tavola è associata all'emissione di 3,5 kg di CO2. Guarda che questo non è troppo, cioè non è che qui c'era la parodia del veganesimo, la parodia del vegetarianesimo. Alcuni dati sono anche veri, questi dati. Come molto tante altre cose, come tante altre sì, cose. Ma infatti cioè, nessuno il consumo del suolo della terra vale per tante altre cose. Non c'è dubbio, vale per l'industrialismo. No, vale ma per tante cose, certo, per sì, tantissime sì. cose. Non è che vale solo per fare una bistecca. Solo dopodiché, per... negli ultimi anni è migliorato o no la qualità della vita? Sì. La gente mangia carne? Sì. Ci si cura di più? Sì. Si vive più a lungo? Sì. Ergo? Si sta meglio? Direi. Gli allevamenti intensivi di bovini sono la causa principale della deforestazione e del consumo di acqua nel mondo. L'acqua necessaria per produrre un solo hamburger corrisponde a quella di 2 mesi di docce. Quanto cazzo si lavano ste mucche? Hai finito? Dai che mi svuoti il boiler. Allora, e dopo Crozza, sentite questo signore. Questo signore è il praticamente il tecnico, il cantoniere, così viene chiamato. È successo quando eravamo in onda, praticamente venerdì scorso, Parenzo, no? Quella ponte che è crollato a Lecco. Sì, sì. Questo signore è il cantoniere, si chiama Tindaro di nome, Tindaro, che era presente lì e che ha fatto i primi soccorsi, che ha subito avvertito del fatto che questa... che qui stava per cadere quel ponte, e poi per quella cosa pazzesca che è la burocrazia italiana, i fax da mandare, la provincia che deve dare il sì definitivo, e poi c'è di mezzo anche, oltre alla provincia, che cazzo era, no? La regione, l'ANAS, la provincia, si erano impicciati tra di loro a livello burocratico e ci hanno messo due ore prima di decidere, forse di decidere, anzi non era ancora arrivato l'ordine definitivo, e intanto il ponte è crollato. Io gli ho detto che secondo me era da chiudere subito, perché vedevo la struttura che non mi sembrava molto, non sono un tecnico, però non la vedevo molto stabile. Cioè un tizio che è responsabile di quel tratto di strada dell'ANAS ti dice che bisogna chiudere tutto e tu ci metti 2 ore? Dai su, adesso ci saranno le indagini e tutto, ma come cazzo si fa? Ma chiudete quella strada, non rompete i coglioni, no, dai. 2 ore per arrivare col timbro ufficiale, ma le province poi non erano sparite, ci sono rimaste le funzioni, certo, però dice rimpallo, no, burocratico tra l'ANAS e la provincia, ma e poi uno si chiede, ma scusate, non avevano abolito le province? Vai, Giovanni, provincia di Lecco, vai. Buonasera, buonasera. Senta, dimmi, dimmi. Io volevo citare la mia esperienza circa il problema così, no, degli immigrati. Io occasionalmente, diciamo un paio di volte alla settimana, salgo su uno dei treni, vado a Milano per lavoro, sì. da Lecco oppure da Sondrio a Milano. Io le posso dire una cosa, malgrado non abbia, io tutte le volte che salgo, sì. Vengo disturbato nel mio lavoro, perché cerco di fare qualcosa con un computer, di leggermi qualcosa. Sì. Ci sono regolarissime risse senza spargimento di sangue, sì. tra la nuova generazione dei controllori, che è poco accondiscendente, sì. con dei gruppetti di bravissimi e tranquillissimi ragazzi extracomunitari che vengono alloggiate proprio in queste strutture della bassa. Guarda, sono mesi. Per i quali è assolutamente normale viaggiare gratuitamente. Sì, no, ma Giovanni, quello che mi stai raccontando mi viene raccontato praticamente quotidianamente da alcuni ascoltatori che mi mandano anche delle immagini, che ovviamente non sono trasmettibili perché siamo alla radio, di controllori che passano tranquillamente davanti a gruppi di extracomunitari, eccetera, senza far pagare, e poi naturalmente, come è normale che sia, chiedono il biglietto a tutti quelli che di colore non sono, anche se poi gli extracomunitari non siano solo di colore. Guardate che i nostri controllori sono regolarissimi, fanno il loro dovere. Cioè, quello che mi stupisce, cioè il problema non è un fatto. No, alcuni proprio appena vedono un extracomunitario non chiedono proprio il biglietto, perché sanno tanto che anche se chiedono il biglietto e questo qua non ce l'ha, non possono fare un cazzo, punto. Cioè, che succede? Gli fai la multa e questi quando pagano mai? Cioè, dov'è la residenza? Dov'è l'indirizzo, eccetera? Per cui non possono nemmeno, ragazzi miei, amici extracomunitari, amici clandestini, eccetera, non vi fate nessun problema, perché dovete fare il biglietto quando voi andate in treno, quando girate per l'Italia comodamente? Non fate il biglietto, ma ve lo consiglio io sinceramente. Ci sono molti che sono all'ascolto, che ascoltano la Zanzara, Parenzo, moltissimi clandestini che ho conosciuto. Io ascolto Zanzara, ascolto apprezzare molto Parenzo, così dicono veramente. Ma che ballano così? Molte persone, io ma apprezzare come apprezzare molto Parenzo, certo, sì, assolutamente. Guarda che non parlano questo italiano qui, parlano molto meglio di come alcuni lì. Alcuni sì, altri no. Tu, così, alcuni sì, altri no. La Lores parla così. Mi hanno avvicinato. La Lores mi hanno avvicinato. Claudicante. Ogni tanto li incontro e mi dicono, io essere molto vicino Parenzo, mi piace ma molto essere, Parenzo. Ma chi è che parla così? Ma essere, neanche io so. Tu uomo bianco, ma che come parli? Ma neanche guarda, dell'America. Ti assicuro che ma io non lo sto dicendo per denigrarli. Io sto dicendo semplicemente una cosa: oltre ad apprezzarti, e dovresti essere contento, moltissime comunità di questo paese ascoltano la Zanzara. Io voglio dare oggi un grande consiglio: non comprate i biglietti del treno, non li comprate mai. No? Hai un passaporto, se ce l'hai, ovviamente, una specie di documento finto congolese, nigeriano, ghanese, fottitene. Non comprare il biglietto del treno, perché passa il controllore, fagli una pernacchia, mandalo a fare in culo, tanto il biglietto da me non l'avrai mai. Ma così dovete fare, è giusto che sia così, perché in questo paese è normale fare così. Cioè è normale che questi signori salgono sul treno, sanno benissimo che ma non sono gli unici, ad esempio, come tu ben sai. Assolutamente, è pieno di italiani che non pagano il biglietto. Anche i tifosi delle squadre di calcio spesso quando prendono d'assalto i treni, le cose, ma pagano il biglietto. Figuriamoci, chi dice niente. Giovanni, allora? Chiedo scusa, circa il problema il grande problema dei vegani che ho sentito nominare, citare da voi poco fa. Io vi passo un'informazione. Passaci un'informazione, qual è? Vi passo un'informazione di seconda mano, per cui va verificata. Io allora? di mestiere faccio simulazioni numeriche. Che fai tu? Faccio simulazioni numeriche, faccio il calcolo strutturale, il calcolo fluidodinamico per l'industria e le applicazioni ottimo. Scientifiche. Allora... Per cui il mio lavoro è quello di simulare sistemi fisici. Io so, grazie a un mio collega, che è profugo del Politecnico di Milano, allora... che... che vuol dire profugo? Profugo vuol dire che ha tentato di rimanerci con scarso successo, come capita. Vabbè, allora... I RIS di Parma sono interessati ovviamente alla ricostruzione delle scene del delitto e anche quando ci sono dei grossi attentati è necessario sapere, per localizzare l'esplosivo, diciamo fare un calcolo a ritroso e capire capire da dove sono, da dove provengono i frammenti. I frammenti è un argomento un po' truce degli esseri umani. Chiaramente, no, non ho capito, Giovanni, però cerchiamo di spiegarci meglio, perché sennò altrimenti comincio ad arrabbiarmi. Cosa mi vuoi raccontare? Una scena del delitto con dei corpi o con dei pezzi di corpi. Beh, allora? D'accordo? Dalla disposizione di questi resti umani è possibile localizzare dove è stato il punto dell'esplosione. D'accordo? Allora? Siccome queste prove non si possono, diciamo, non si possono fare se non con dei fantocci, e comunque vanno sottoposte, sì, a verifica sperimentale, questa è la notizia di seconda mano. Sì. Questa università lo fa in Svizzera, ripeto, questa è un'informazione fa esplodere i maiali. Anche se, cioè, tu stai dicendo che, secondo quello che ti hanno raccontato, diciamola così, esatto. Un'università in Svizzera che per fare dei test utilizza gli animali e li fa esplodere. Questo esattamente. È il punto. Vabbè, esattamente. Ciao, controlleremo. Ciao. Grazie, ciao. Buona serata. Ciao, grazie. Ciao. Giuliano, ancora, vai, Giuliano, vai. Vai, ragazzi, buonasera. Sono ancora le 20:10, dai, vai, forza. Buonasera. Giuliano, volevo solo intervenire su quello che poi avete detto con il vice sindaco di Norcia. Semplicemente che non mi sembra giusto in una situazione del genere parlare con un operatore che peraltro passa la notte in macchina e dargli del fascista. Tutto qua, non mi sembrava fuori luogo. Allora, Giuliano, innanzitutto c'è una cosa molto semplice. Quello fa il suo mestiere, che è fare il vice sindaco di Norcia. Cioè, in questo momento c'è il terremoto, sta vicino alle persone del suo paese, ci mancherebbe altro, dorme in macchina, fa quello che deve fare, aiutare, eccetera. Fa il suo mestiere, vice sindaco di Norcia, altrimenti farebbe un altro mestiere. Punto primo. Punto secondo, non è che ho detto io voglio chi molla, l'ha detto lui. Cioè, l'ha detto lui in un'intervista un piccolo dettaglio. Sky. Cioè, ed è importante. L'ha detto lui. Dopodiché, poi, io lo chiamo, se ha voglia di parlare di queste cose parla, altrimenti ci manda a fare in culo, punto, molto non semplice. È questo, non è la e qual è il punto? Io, culo, sono io sono fatto così, non è che mi faccio problemi, questo no, si sta occupando delle persone, se ha tempo mi risponde, se non ha tempo non mi risponde, punto e basta. Al di là di questo sta facendo un'opera ma non lo so, ma fa il suo mestiere, fa il suo mestiere, fa il vicepresidente, sì, vicepresidente. Non mi sembrava corretto che voi due lo aggredivate, ma non del fascista, ma scusa, ma a parte che io non ho aggredito nessuno, lui eccetera, ha semplicemente rivendicato, mi pare in assoluta tranquillità e lucidità, la sua appartenenza. Perché gliel'avete strappata voi? Ma che l'abbiamo strappata? Proprio per niente. Ma scusi, ma proprio per niente. Comunque, Giuliano, scusami un attimo. Ma opportuno, ma non c'è neanche. Qui non esiste la parola opportuno. Cioè, qui non è. Infatti, la parola opportuno è stata cancellata. Voi forse non avete idea di quello che è successo qua. Ma certo che abbiamo idea, amico mio. Se venite qua voi, probabilmente vi renderete conto che passa in secondo piano. Ma io non devo venire lì. Ma io non devo. Ma non mi interessa. Ma scusa, amico mio, a parte che la polemica l'ha iniziata lui dicendo boia chi molla, primo, secondo, di fronte alle telecamere. Non ha detto questo. Come non ha detto quello? Te lo voglio fare risentire davanti alla scala. Ha detto boia chi molla. Io sono uno vecchio stampo del periodo di boia chi molla. Non è detto che chi dica boia chi molla. Ma l'ha detto lui, ma lui di nuovo. Ma l'hai sentito o no? Ma lo ha spiegato lui dopo. Bisogna lasciare i territori terremotati. Intendeva questo. Ma scusa, ma l'hai sentito o no? Per audience dovete sempre calcare la mano, ma non è il caso. In questo caso, scusami, vi assicuro, ve lo dice chi vive nelle terre terremotate, ma che non bene, andate tu a infastidire persone che ci stanno lavorando. Senti, tutto Giuliano, qua, io a parte che questa qua è un po' stalking radio e dunque noi andiamo a infastidire chi cazzo ci pare. Primo, bene, certo. Se a te non piace che noi infastidiamo qualcuno, però ti piace quando infastidiamo magari la gente normale. Che cosa c'entra? Che differenza c'è? A parte che non abbiamo infastidito nessuno, non è che vado a chiamare la gente terremotata dicendo vai a fare in culo, stronzo, non è che faccio uno scherzo ai terremotati. Sta lavorando, cercando di organizzare una persona, un disastro che c'è stato. È una persona che ha un ruolo istituzionale, dunque sta facendo il suo lavoro. Io, siccome ho sentito alcune dichiarazioni, non è che siccome lui ha rivendicato di essere missino lo vado a chiamare comunque. Cioè, scusi, lei è fascista mentre sta lavorando ci e sta prendendo centinaia di persone che sono fascisti, sarebbe il caso che rompete le scatole da qualcun altro e non vabbè. Chi lavora su queste zone. E ripeto, veniteci e poi vi rendete conto. Va bene. Ciao. Crucia Sinalotto. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. Don't you worry, I'm all right, Jack. We've never had it so good. House in Hampstead, Fallout, Bunker Town, everything we could. Allora ragazzi, vi faccio sentire la super pazza vegana della settimana scorsa, perché c'è una novità importante, caro Parenzo. Allora, vi ricordate come si chiama? Sì, la ricordi? Roberta Montagna. Roberta Montagna. Roberta Montagna è quella che quando ha visto una foto di un bambino che mozzicava, teneva in bocca o alzava, adesso non ricordo bene, un bambino di pochi mesi, una bistecca, un pezzo di carne, non so se una bistecca, ha scritto: gli auguro di morire di cancro. Gli auguro di morire di cancro. Si chiama Roberta Montagna. Però lei ha scritto: speriamo crepi di cancro da giovane, ed era riferito chiaramente al bambino. Non mi dica di no, era riferito. Questa è la sua interpretazione, no, che io non contesto. Ma scusi, non contesta, cioè è così. No, non lo contesto, però non ho neanche tempo di contestare. Sì, io lavoro, sto lavorando. Però lei deve ammettere che è così, perché è così. E dopo che... ma semplicemente per la verità, per la verità. Lei ha ogni diritto di tirare tutte le conclusioni che ritiene. Resta il fatto che lei ha scritto: speriamo crepi di cancro da giovane, con la foto di un ragazzo, di un bambino che mangiava una bistecca di carne. Ha scritto quella frase là, ed è una frase agghiacciante, perché quel bambino deve vivere, quel bambino deve vivere, quel bambino deve... Cosa deve diventare? Se deve diventare come tanti, non è una grande perdita se non lo diventa. Non si pente assolutamente, speriamo crepi di cancro da giovane, non si pente assolutamente. Dirmi? Assolutamente no. Don't you worry, I'm all right, Jack. We never had it so good. Lei spera che chiunque mangia carne, che chiunque... No, lei che spera che chiunque mangia carne muoia di cancro. Lei... No. Chiunque posti la foto di un bambino che può essere suo figlio o suo nipote, perché io non lo conosco, carne, questo bambino che mangia carne, merita per me di non arrivare a Natale, lo pubblichi con i manifesti. Poi se la prende con chi lavora nei macelli, anzi chi mangia carne è complice di una strage prima. Secondo lei chi mangia la carne che cos'è? È un problema suo. È un assassino chi mangia la carne? Io il mio... Certo, no. Sì, anche un assassino, sì. Cioè, complice di una strage. Sì. Complice, certo, di una strage. Sì. Quelli che lavorano nel macello, che vanno uccisi. Le gambe che si spaccano, buttano le vacche che si spaccano le gambe. Vanno uccisi. Almeno fatti le stesse cose, ecco, buttati dalla finestra che si spacchino le gambe, così capiscono. Lo sterminio degli animali uguale allo sterminio degli umani. Cioè, no, lo sterminio degli animali è peggio di quello degli ebrei, sta dicendo. Non degli ebrei, io non faccio distinzioni. Sì, l'ha detto umano. Prima, gli ebrei, Hitler, stiamo parlando. No, Hitler me l'ha proposto lei, se vuole possiamo parlare di Stalin, che comunque non ha ammazzato gli ebrei, ma erano sempre umani. Sempre umani, sì. È la stessa cosa. Hitler amava i cani. Uno può dire anche che Hitler ha fatto benissimo nella sua vita, per carità, ma va bene. Ma cioè, probabilmente per tante cose in effetti non era male. Non era, per esempio, era vegetariano? Non lo so, non ho mai mangiato con Hitler. Non Hitler, però amava i suoi cani. Però amava i suoi cani. Dunque non era male, sì, per tanti aspetti. Amava i cani, però amava, diciamo, cani. Che ha ucciso 6 milioni di persone pur amando i cani. Oh, beh, sì. Quanti animali stanno morendo ogni giorno? Allora, caro Parenzo, durante il fine settimana ho ricevuto una mail che posso leggere tranquillamente da parte di un signore, non dirò il cognome, che si chiama Emanuele e che è il padre del bambino ritratto nella foto e tra l'altro bambino di cui la signora che abbiamo appena ascoltato, riascoltato, si augura la morte con una sofferenza atroce, cioè il cancro. Caro Giuseppe, mi permetto di darti del tu, perché dopo tanti anni che ti ascolto tutti i giorni, per me sei come uno di famiglia. Sono con la mia famiglia in vacanza e ho appena finito di ascoltare con mia moglie il podcast della puntata in cui parli con la signora che augura la morte a mio figlio di 18 mesi. Figlio di 18 mesi. Avrò modo di spiegarti tutto, ma vorrei solo ringraziarti per aver difeso il nostro bambino e la vostra. Ci mancherebbe altro. E la nostra famiglia. Quando mia moglie ha sentito te urlare questo bambino deve vivere, a pianto, e ci siamo sentiti difesi e protetti da una violenza gratuita. Poi questo signore che si chiama Emanuele ha anche proposto di mandarmi la foto in originale del bambino, perché ovviamente ci sono pure dei falsari che girano, ogni tanto cercano di propinarci qualche minchiata, ma ovviamente me l'ha anche mandata, ma dopo averci parlato per telefono ero sicuro di parlare con il padre. Emanuele, buonasera, ciao. Ciao, buonasera Giuseppe. Eccoci qui. Allora, voglio capire innanzitutto una cosa: com'è finita quella foto di tuo figlio, diciamo, su internet? Com'è finita sul web? Ma guarda, in maniera molto banale, nel senso che una decina di giorni fa io ero in una steakhouse, in un ristorante dove si mangia carne a Milano, sì, a festeggiare il mio compleanno con la mia famiglia e i miei parenti, e questa, che non è una bistecca ma è un hamburger, che era nel piatto di, sì, mia moglie, sì, e il mio bimbo di 18 mesi l'ha preso, quindi io gli ho fatto questa foto che era una foto simpatica, carina, e mio nipote, che era lì con me, che è un ragazzino di 15 anni, mi ha chiesto di mandargliela su WhatsApp. Sì. Ho scoperto poi, dopo che è venuto fuori tutto questo, sì, questa storia, che mio nipote l'ha messa su Facebook, e da lì si è scatenato tutto questo. Tu mi stai martello. Dicendo che tuo nipote di 15 anni, mm-hmm, un po' forse anche per provocare, o comunque per... Sicuramente, a 15 anni è stupido come tutti i ragazzini. Ha messo questa foto su Facebook ed è poi andata, sì, a finire in un gruppo di vegani, immagino, no? Sì, comunque, sì, in un gruppo di simpatizzanti, presumo, vegani. Sì. E da qui il commento sotto da parte della signora Montagna, della, sì, signora Montagna. Ora, tu hai rimproverato, poi Emanuele è talmente, almeno mi è sembrato così, talmente corretto che si è anche incazzato col nipote, se non sbaglio, no? Io mi sono arrabbiato tantissimo con mio nipote. Per avere messo a tua insaputa la foto di tuo figlio in giro, naturalmente. Beh, certo, credo. Questa sera, che mio figlio ha 18 mesi, io e mia moglie siamo persone molto riservate, e non esiste una foto di mio figlio su Facebook, cosa, sì, che io non uso neanche. Spero l'abbia mandata in giro, spero l'abbia mandata in giro con gli occhi già coperti. Mi ha giurato di averlo fatto e io gli credo. Vabbè, ma al di là di questo, la cosa è un problema vostro, diciamo, più o meno, cioè un problema di rapporti tra te e tuo nipote. La cosa fondamentale è che per nessun motivo al mondo, anche se un ragazzino di 15 anni ha postato questa foto su internet, per nessun motivo al mondo si può rispondere in quel modo lì come ha risposto la signora Montagna. Beh, io direi, perché ecco, ma come ti sei sentito quando hai appreso di questa storia e le parole soprattutto di questa signora, che chiamiamo, diciamo, con nome e cognome, perché è normale che sia così, però è una bestia, secondo me, la signora Roberta. Secondo me, io non lo voglio dire, però dillo. Sì, nel senso che lo dico, nel senso che comunque una persona che arriva a fare una cosa del genere, a dire una cosa del genere, io inizialmente pensavo che fosse una persona turbata psichicamente, dopodiché ascoltando in maniera abbastanza ossessiva il podcast, sì, che comunque poi volevo capire esattamente della trasmissione dove voi la intervistavate, mi rendevo conto, la cosa mi ha lasciato oltre molto perplesso, perché mi rendevo conto che nel suo delirio era lucida, quindi parlava, sì, comunque, sì, di Hitler, parlava di, cioè, una persona che si professa per l'amore degli animali e poi è per l'odio di tutto il resto di quello che vive al mondo, perché, cioè, non c'è niente di più brutto di augurare la morte con sofferenze a dei bambini. Di un bambino di 18 anni, certo. Ma Giuseppe, ma anche fosse il figlio di un terrorista dell'ISIS o il figlio di un... di Adolf, sì, era un bambino innocente, certo. È mio figlio in questo caso, ma potrebbe essere il figlio di tutti. Denunci noi. Che cosa tutto vuoi fare tu, Emanuele? Io questo sicuramente lo farò, nel senso, bravo, che io già, bravo, mi sto muovendo, giusto, per farlo, e quindi già il mio avvocato si sta muovendo per raccogliere tutto il materiale del caso, e fortunatamente c'è il materiale, beh, su, sì, cui andare a lavorare, e di conseguenza io questa cosa assolutamente la farò. Io mercoledì mattina discuterò appunto con i miei legali per capire come fare, ma io questa cosa non la faccio, anticipo già, cioè, per i soldi, cosa, assolutamente, fortunatamente non mi servono i soldi di questa signora per fare una buona vita, posto che qualunque cosa dovesse succedere, io quello che mi auguro è che questa persona si renda conto e, sì, la smetta, perché dire una cosa del genere è di una violenza allucinante. Ecco, ma la prima volta che hai sentito tua moglie, adesso tu sei magari un po' più freddo, ma tua moglie quando ha sentito le parole, al di là delle mie parole, che sono parole normali, sai, io... Che sono quelle sulla quale si è messa a piangere, perché probabilmente sono stato un attimino un... cioè nel momento in cui tu hai urlato quella frase, hai detto quella frase, questo bambino deve vivere, lei che già era completamente turbata da questa cosa, perché sentire dire certe cose, avendolo di fianco il nostro bambino, capisci che quando hai sentito certo. dire quella frase, ti dico, ti ripeto, ci siamo sentiti quantomeno un pochino tutelati, un pochino protetti, perché tu ecco, ma vi siete sentiti offesi da da questa roba qua, cioè nel senso che è come se fosse stata commessa una violenza nei confronti del certo, ma sicuro la parola corretta è violentati, nella cosa più cara che tu puoi avere, perché cioè anche tu hai figli, sì, certo. penso che ma a me hanno scritto figure, io su questo sono un po' più carrozzato di te, ovviamente, perché ovviamente quando c'è stata la vicenda dei vegani, figuriamoci, cioè, hanno scritto e detto qualsiasi cosa su mia figlia, eccetera, la carne, la morte, le sofferenze più atroci. Stesso, però tu sei un personaggio pubblico, capito? Io sono abituato, certo, assolutamente. Che, viene toccata nella cosa più cara che ha al mondo, una maniera tremenda, veramente bruttissima questa cosa. Ma rivolgiti un attimo a questa signora, a questa Roberta. Rivolgiti un attimo dicendogli non ho nulla contro di lei, inventati una cosa, non lo so, non te lo posso suggerire io. No, io non ho assolutamente nulla contro di lei come persona, ho tutto contro quello che lei rappresenta, cioè la violenza gratuita nei confronti di chi non si può difendere senza motivo. Lo sai, oggi lo sai, qualcosa di orribile. Certo, lo sai David, che oggi c'è una storia, te la racconto dopo, ragazzi. Coinvolge sempre il mondo animalista, il mondo vegano, i terremoti, eccetera eccetera. C'è una storia incredibile, perché che parte dall'uccisione di un cane, che è una cosa oscena naturalmente. Ma gli animalisti riescono a fare casino anche quando hanno ragione. Cioè, anche quando hanno ragione, la storia del cane ucciso, sai, no? In provincia di Cosenza, su cui le Iene hanno fatto un sacco di servizi, eccetera, eccetera, riescono a dire cazzate pure su quello. Cioè, riescono a passare dalla parte del torto anche in quel caso. Fanatici sono fanatici. Emanuele, ciao, dai un abbraccio a tua moglie, al bambino. Grazie, Giuseppe, ciao. Ciao. Voglio caro. Più zanzara e meno pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Pneumatici Invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. La Zanzara. Dicevo prima che Anonymous, che io non so bene chi cazzo siano, eccetera. Anonymous sono degli hacker, gli hacker, sì. Hanno oscurato il sito del comune di Albettone. Oh, molto bene, molto molto bene. Ma bravi, no, come questi molto Anonymous. Bene, ma non bisogna fare benissimo, così. Benissimo, dai. Molto molto bene, opera meritoria, bravi no, Anonymous. No, non va bene, dai, non va bene. Un razzista. Quello va bene, sarà pure razzista, sì, lo dice pure apertamente. Per un po', oscurato per un po', ma dai, no, dai, ma non dai, va bene, dai. Ma non si può stare dalla parte di Anonymous. Ma tanto mi va a sciare in estate, no? Ho fatto la pista da sci. Sta genialata. Non mi va giù niente di quello, ma anche la pista da sci. La pista da sci al Bettone, perché pensare di attrarre turismo ad Albettone, sì, no? Sì. Quando uno è a Vicenza, che è a 80 Vabbè, chilometri dalle... la pista da sci, uno lo fa anche per estiva. Quelli che non vogliono andare a sciare, sì. Quelli che vanno lì e invece... Ma la trovo un'idea geniale, guarda, fare una pista da sci ad Albettone. Geniale. Salve d'estate. Cittadini di Albettone, noi siamo Anonymous. Ci rammarica Bravo. Leggere dalle agenzie di stampa, sì? Che il vostro sindaco si trovi in una situazione psicofisica problematica. Bravissimi, simpatici anche. Dove la sua anche. Salute e quella dei suoi cittadini è a rischio. Da sempre Anonymous combatte contro qualsiasi forma di intolleranza, ingiustizia Bravi. In tutte le avanti sue forme. Avanti tutta Anonymous! Avanti. Il razzismo che sono riconducibili al periodo nero, fascismo. Bravi. È inaccettabile Bravi. Che il rappresentante di un comune italiano sparga odio sì. contro le persone di colore, Vero? Omosessuali e persone che scappano da guerra, violenza, fame. Completamente macerie. D'accordo, avrei potuto scriverlo io questo Ogni comunicato. Ogni forma di ignoranza non è accettata dalla legge né da Anonymous. E allora Anonymous andate, gli ha creato andate tutto. Andate a fare in culo. Bravissimi. E che sono i depositari della verità questi stronzi. No, ma hanno ma sono dei poveracci. Anonymous, ma interveniamo un attimo per cortesia su questo signorotto ma qua. Ma facessero quello che vogliono, non sì, me ne frega un cazzo. Magari ti aggrassero Fanno un po'. Pubblicità gratuita a formaggio in questo modo. Abbiamo già visto in questi giorni precedenti come Gorino e Bitonto, e non possiamo più rimanere in silenzio. Anche. No, Bitonto. Un silenzio naturale in un paese da sempre muto. In risposta alla dichiarazione del sindaco Gio Formaggio di Albettone, fatta alla Zanzara in queste ore, dove esterna, immigrati, se ce li mandano muriamo le case e le riempiamo di letame, siamo orgogliosamente razzisti, prendiamo atto dovuto di dover testare il letame presso il sito web del comune di Albettone. Mamma mia, ragazzi, i depositari della verità, mandate no, a fare verità, culo, hanno scritto una cosa vera, andate però a fare in culo, dichiarazioni dai, razziste di uno che rivendica di esserlo, letame nelle case causa dei migranti. Comunque, piano, una, ho un preso una decisione, oggi Formaggio non te lo faccio riascoltare, non te credo. Lo metto in onda domani integrale, cioè domani integrale a pezzi, non ci come sono, solito domani, no, ma che cazzo c'entra, dai, non ci sono. Riascoltare, che cazzo vuol dire, dai, su Giuseppe, provincia di Firenze, dai, Giuseppe, dimmi, Giuseppe, dimmi, Giuseppe. Oh. Eccomi, c'è sto. Dai, c'è sto, non sembri di Firenze però. Giuseppe. Io volevo dire due cose su. Sì, ma non sei di Firenze. Non sei di Firenze tu. No, sono di Roma, vivo a Firenze. Provincia di Firenze. Mm. E, sì, provincia perché di dovrebbe Firenze. Essere Finocchio, Parenzo? Perché il Finocchio, proprio un atteggiamento. Ma che vuol dire per te Finocchio? Che cosa vuol dire Finocchio? Non ho capito, secondo te. È frocio. È frocio. È frocio, vabbè, allora. E allora, vabbè, posso dire quello che devo dire o me devi interrompere? Senti, amico mio, stai tranquillo e stai calmo. Io interrompo chi mi pare, sempre. Ma io stupisce che la fuga dei cervelli non sia mai completa in questo paese. Vabbè, ecco, Giuseppe, cosa vuoi dire? Non ho capito. Che cosa vuoi dire di volevo concreto? Volevo dire? Che ce l'avrei io la ricetta per fermare i sbarchi. Qual è? Avanti, tanto sei un fake, sicuro. Sì, Parenzo. O vi abbastonate per una settimana, sì. Poi o metti su le coste da Sicilia, sì, un bel MG42 col piantone dietro che io piglio a legnate, e ogni gommone che si avvicina lui gli deve sparare e li fa affoga tutti quanti sti negri, se no sti si portasse a casa sua e basta. Allora Giuseppe, o sei un fake che vuole fare sicuro il troll qui da noi facendo il finto razzista, ma noi siamo noi siamo molto più scaltri e molto più sgamati di te, cioè, chiaro. Ma quanti ce n'ha a casa sua Parenzo di sti negri? Ma non lo so, nessuno ce n'ha, ma non è questo il punto. E allora si coccola tanto si portasse a casa sua, no? Sì, e perché dovrebbe portarsi a casa sua? Se si coccola si portasse a casa sua, a vabbè, me mi stanno sul cazzo e a casa mia non mi porto. Va bene, bravo, ciao Antonio Mantova, dai. Fake. Sì, totale. Antonio, vai. Li scopriamo sopra al volo, li scopriamo, cioè al volo li scopriamo. Antonio, vai, dimmelo. Cruciani, buonasera. Dimmi. Senti, volevo intervenire anche perché chiamo da Mantova. La partenza di Cruciani questa sera è stata un po' fuori luogo, perché prima di tutto non mi sento miserabile, sto lavorando. No, veramente Parenzo ha detto questo, io no. Sì, Parenzo, vi ascolto volentieri. Poi anche prendendo spunto da Mauro di Mantova. Lo so, però purtroppo. Il Mantova è una bella città. Bellissima. Cioè, non ti senti rappresentato da Mauro? Assolutamente. Vedi, si vergogna, la popolazione vera. Lo so, però purtroppo c'avete un concittadino che è così. Mantova è meravigliosa. Io sono stato tante volte a Palazzo Te, dove ci sono gli affreschi di Giove e Giunone, cioè, negli amori di Giulio volta Romano. Sono stato... No. Città meravigliosa, Mantova. Ti vergogni? Quando parla Mauro un po' ti vergogni, dai. Non mi interessa assolutamente, però il fatto che Parenzo è partito così questa sera mi è sembrato un po' fuori luogo. Sì. Non ho capito, quando parla Mauro tu che cosa provi? Prova disagio. Mi diverte soltanto come discutere con lui e basta. E come lo consideri? Come lo considero, devi accettare le persone per quello che sono, stanno lontano da me finché non mi toccano stanno bene dove stanno. In che senso? Ma lo vorresti incontrare tu? Ma perché? Ma se lo incontro cosa gli potrei mai dire? Prendiamo un caffè insieme ma finisce lì, non è che ti andiamo a... non so, non potrebbe mai essere un mio amico per dirti, no? E perché? Perché non è amico di nessuno, ma è evidente. Perché non è una persona con cui potrei andare d'accordo. Un altro da Mantova, dai, Ambrogio, vai Ambrogio, dimmi. Ciao, io volevo dire a quel signor Parenzo, prima quando ha parlato con la signora di Vicenza, mi sembra, sì. Ha detto che se lei vivesse in un paese normale, volevo sapere qual è il paese normale dove vive quella signora là, per signor Parenzo. Non lo so qual è il paese normale. Ma di quale signora parla lei? No, quella che diceva di tiene. Sì, quella ha detto che se lei vivesse in una paese normale, che è Italia, penso, per lei, perché lei vive in Italia, purtroppo. Sì, ma allora chi? Come dovrebbe essere Italia? Normale, cosa vuol dire per lei? Ma che ne so, non so che stai dicendo. Di cosa sta parlando? Aspetta che c'è un controllore che chiama, Franco dalla provincia di Torino, vai Franco. Buonasera Cruciani. Dimmi, dimmi. Telefonavo per quella questione lì dove lei inneggia a non far biglietti. A no, io non ho detto questo. Ho detto semplicemente quei signori lì. A fanculo. No, quei signori lì. Quei signori. Lei fa il controllore? Lei fa il controllore? Io faccio il controllore. Su un treno locale? 5-6 volte. Su un treno locale? Treni regionali. Sì. Su treni regionali, benissimo. Incontra extracomunitari in giro? Aiosa. Li fanno i biglietti? Li fanno i biglietti? Mi faccia finire però. Dica, dica. Io per dare una parvenza di normalità, perché io non sono un bodyguard delle ferrovie, sì. Io sono un controllore che cerca di dare un'equità fiscale. Assolutamente, adesso equità fiscale non è il suo compito, lei deve controllare se uno fa biglietto o no, che c'entra l'equità fiscale, scusa. No, vabbè, appunto, mettere tutti quanti alla stessa maniera, pagare. Ma non lei deve semplicemente controllare se uno ha fatto biglietto o non è che deve fare deve mettersi a posto del fisco, scusi. No. Ascolti, mettere tutti quanti in regola, perché sul treno devi essere in regola. Assolutamente. In caso di allora, incidente, eccetera, eccetera. E tutto questo diventa difficile perché noi abbiamo la nostra dirigenza, abbiamo problemi. Vabbè, con ma le forze dell'ordine. Qual è che cos'è che ho detto di sbagliato io? Scusi. No, che lei ha detto quando vedete passare, non pagate il biglietto. Ma certo, assolutamente. Ovviamente era ironico, no? Era ironica la cosa. Era ironica. Allora non ho capito. No, ma scusi, Franco. Siccome io Franco, lo vivo quotidianamente, Franco, lo cioè, vivo quotidianamente. Quante persone non pagano? Quante persone non pagano? Ma purtroppo più aumentano queste persone qua e ce ne sono tante. Pagano purtroppo questi qua extracomunitari che no, lei non pagano, non pagano perché purtroppo sono dei disperati. Vabbè, ma sarà è come dice lei, certo, sociale. Ma io non sto dicendo è che non sto dicendo però che bisogna farli, mi perdoni, io devo farli scendere dal treno, e questi scendono. E lì nasce il contratto. Sì. Io riesco molte volte a farli scendere, e le dico che ultimamente ho avuto problemi con quattro di questi signori qua, ed è bastato che un signore anziano mi ha detto ha bisogno di qualcosa, questi qua hanno mollato, perché noi italiani siamo buoni a criticare chi lavora, no? A avercela con la gente che... Però scusa Franco, treni, però nel momento opportuno giriamo la faccia dall'altra parte. No, questo sicuramente, però voglio chiederti una cosa, la questione è molto semplice, è questa, cioè io ho detto ragazzi extracomunitari, amici della Zanzara, clandestini in giro per l'Italia, è inutile che pagate il biglietto. Tanto ma nessuno vi farà niente, ma non è vero. Ma io lo dico, ma non è vero. Andate sui treni e fottetevene, incontrate Franco e sputategli in faccia, tanto nessuno vi farà niente. Io la ringrazio, l'hanno già fatto, guarda. Caputo, ma io è questo che voglio farti dire. Io avrei preferito che invece dicesse, non voglio dirle cosa lei deve dire assolutamente, però avesse detto forze dell'ordine, non o dirigenza ma tanto è inutile, questi non pagano, anche se uno li butta fuori, anche se uno gli dice guarda c'è la multa, tanto non succede un cazzo. Ma questi, non è vero. Ma come no, è pieno, ma perché lo sa, devi ma diffondere tutta sta roba? Lo certo sa anche Franco che spesso questi non pagano, no, c'è l'imbarazzo, no, spesso, vengono sì molti i clandestini, certo, ovvio non pagano perché sono clandestini, manco sanno che una persona ha perso un braccio, per questo fortunatamente certo, gliel'hanno riattaccato, e le assicuro quotidianamente noi Franco studiamo. Ma io lo so benissimo, io sto dicendo, sto facendo questo appello perché tanto, ovviamente... Sì, per metterlo ancora più in difficoltà, ma fai no, bene ironicamente, un lavoratore. Ironicamente, no, per dire a questi extracomunitari che tanto possono fare il cazzo che vogliono, lo sanno benissimo, e dunque vinci ad andare sul treno, incontrare Franco e dirgli tanto io, caro Franco, il biglietto ma non lo pago, già, caro contro... Lo fanno non c'è bisogno già. Che lo faccia lei. Ciao Franco, ciao, lo già, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, Mauro da Mantova, avanti Mauro, che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Ciao Cruciani. Dimmi che c'è. Allora, io dimmi che sono c'è. Mantovano. Sì, vabbè. Sono nato a Mantova. Questo lo sappiamo, davvero. E allora? Quel signore che ha chiamato per signore, Antonio, no, signore non se lo merita. Antonio, sai dove è? Non lì? Ti vuole incontrare, sono cazzi sì, suoi. Ma tu hai sentito come parlava? Ma non lo so, non sono esperto di dialetti allora mantovani. Allora te lo dico io, quello di lì è, o è pugliese è lucano. E vabbè, che male allora, c'è? Allora, tu devi sapere che qua a Mantova, il 99,9% del SUC che è venuto qua a Mantova, ha avuto il posto statale o parastatale o comunale. Ma non è vero. Per avere il voto alla sinistra, appunto. Ma non è... ma sei ossessionato da questa... ma sei ossessionato da questa cosa del voto alla sinistra? No, la realtà... vabbè, cosa vuoi dire? Al di là di Mantova, che di cui allora, non ci può fregare di meno, dimmi. Ma cosa tu... vuoi parlare col signor coglione Parenzo? Vabbè, perché dai, il Parenzo sta coglione, qua e ti ascolta con grande tranquillità, dai, dimmi. Allora, non c'è, secondo via. Te, ma perché? Perché? Una donna solo ha cercato Parenzo e diverse donne che no, ma non mi interessa, non mi interessa questi discorsi qua. Per motivo, non mi interessa. Perché non sono un frocio. Ma non mi interessa se sei frocio o no, non mi interessa, sei uno. Parliamo anche del terremoto. Che c'è allora, il terremoto? Io ho un cliente a Reggio Emilia. Che ha come cliente l'unica fabbrica di inerti antisismici di Correggio. Che c'è adesso? Un Correggio, tuo amico ha un'azienda di cose. Mauro, cerca di essere più concreto, dai. Allora, a Correggio c'è un cementificio che produce lastre. Ma chi se ne frega? Perché dovrebbe essere interessante? Perché? Ed è l'unica che c'è, ed è dell'azienda Maramotti. E allora? Che nel 2012... E che fanno? Provocano il terremoto apposta? Che fanno? No. Se mi fai parlare te lo dimmi, chiedo. Dimmi. Allora, si sono presentati le 6:30 quando ho fatto i capannoni, il carabiniere con un mandato, non so se era del Viminale o del Quirinale, adesso non mi ricordo. Vabbè, ma perché questa dietrologia? Su che cosa? Dimmi. Ma dietrologia? Io ti dico quello che gli hanno fatto il signor Maramotti. Ma non mi interessa, non ci interessa di questa cosa, non ci interessa. Allora, se io ti dico solo questo, se a Correggio, che ci sono 110 km di distanza dall'epicentro del terremoto, segna 7-7, come fa a segnare 5-2 là? Eccolo là, è arrivato il tecnico. È arrivato lo scienziato dell'istituto di... No, non sono scienziato! Di vulcanologia italiana. Sono i fatti italiana. Che parlano! Ma dai! Ma dai! Cosa cruciale? Ma io che cosa ci guadagno dirti questo? Ma non nulla, non ci guadagni niente, niente. Ma sai, stai delirando, niente! Ma stai delirando, Parenzo, diglielo tu che sta delirando, ti prego, diglielo tu. Ti dirò di più, Arrivara, non Abondello, Arrivara. Ma perché, io credo, perché oltre che esperto di politica internazionale, politica italiana, conosco tanta gente, ti picchi, e la gente mi dice la verità di quello che ha riscontrato. Ti picchi di essere pure un esperto di magnitudo, di terremoto. Non sono esperto, io conosco molta gente. Ma che vuol dire conosci? Non gente d'osteria, gente affidabile, gente che è nel settore ben impostato, cioè ben dentro, e mi ha detto, quando scavavano nel 2012, scavavano in un capannone chiuso, non all'aperto per non farsi vedere, sono andati giù che a 6,5 km di profondità. E che facevano? Sono andati giù a 6,5 km di profondità, lo sanno tutti. Lo sanno quelli che ci lavoravano lì a fianco. Ma che stai dicendo? Quando ci sono trovati il granito di origine vulcanica a 6,5 km allora? Di profondità, non riuscivano a penetrarlo con la trivella. Sai cosa hanno fatto? Che hanno buttato fatto? Dentro una microbomba. Che la quando bomba. Hanno fatto la fiammata e innescato lo scoppio di 10 milioni e mezzo di metri cubi di metano. Sono disperato. Ecco cosa è successo. Il terremoto. Il terremoto è successo in questo modo e che quel bastardo della polizia non l'ha occultato. E sai la crosta terrestre cosa ha fatto? Sai la tettonica placche? Mamma mia, ragazzi. Sai perché si chiama tettonica? Ma dai ragazzi, ma come si fa? Ma è una persona desolante, cioè cosa vuoi dire? Ma sai che sono commosso proprio, mi viene da piangere. Cioè, mi viene da la microbomba. La microbomba. Ha detto la microbomba. Cosa vuoi dire di più dopo questo? No, mi viene da piangere, non so se ce la faccio, sai. La microbomba al terremoto. Perché conosco tanta gente. Ma vaffanculo. Sì, ma perché mi devi far ascoltare la zanzara mattina, pomeriggio, sera e notte? Ma perché la zanzara è il top? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh?